tecnologia prima di fare aggiornamento d'aereo. Andiamo. Sì. Aspetta, porta accademia e porta, cioè, della scheda grafica o Non c'ho la grafica. Scusa, ma se metti video su YouTube, la se devi pagare la scheda la madre chiave. non è normale. L'unico problema è che Cioè, poi dipende da l'altra dove accademia metti andava, ma di quarta fuggita ce n'è un'altra, quindi abbiamo dovuto usare video. Ma se l'altra metti video di su YouTube. Ah, Cioè, per pagare la ragazzi. SIAE se usi della musica nei tuoi video. Ragazzi, iniziamo. Sto Ok. registrando. Sarebbe stato Quindi, perfetto. vabbè, Scusami, nel prima. senso, tra l'altro ti sto mangiando. Ciao. Ciao Saula. Io devo rizzarmi, però. Facciamo finta che non abbiamo parlato per tipo 30 minuti prima spiegando tutte le cose. Sì, ce l'avevo fatto prima possibile, ma prima non riuscivo a No, capire. esatto, abbiamo parlato prima di cena, quindi. Sì, si ricordava Edoardo, no, bene la allora, parte che, non so, ad no. esempio, Cioè, il il nostro primo piano. incontro è Spostate stato. il microfono qui, sopra. Io Ottavo. Andrea. Andrea disagiato. O meglio, disagiato più di altri. Cercate di non battere forte sul tavolo. Così, è un microfono impazzisce, però. Aspetta, andiamo, mettiamolo qua. Aspetta, Lo metto aspetta. più al centro. Aspetta. Salam, ma tu vuoi vedere al referendum? Raga, perché tutti gli ultimi podcast mi devono cominciare con gente che mi chiede se vota al referendum? Ma dovresti aver già votato, no? Io volo sapere cosa voti. Oddio, Salam è presente in ogni podcast. Perché voti? Va bene, raga, introduci. Salam, ci senti tutti? Ci senti tutti? Sì, vi sento tutti, ma l'importante è che si senta in audio, ma la mia presenza è solo per il marchio. Lo so in anteprima, oh mio Dio, c'è il trailer della Costituzione. Il teaser trailer della Costituzione. Come al solito, i trailer spoilerano. Io ho gli spoiler. Lui è arrivato poi i risultati del referendum, lui sa già chi vince. Non lo chiamare una radio. Dimmi solo una cosa, inizia per adesso per me, c'è la risposta Dai, raga, cominciate. C'è una serie nella parola che iniziate il podcast. Allora, dirò quello che ho detto a loro, lo ripeto così c'è anche una registrazione. Ho fatto tipo un trailer tipo d'ingresso, però non lo vedrai perché vabbè, troppo tardi. Ti dico solo il testo velocemente. L'impero galattico in ascesa, bla bla bla. La commissione per segnalazione di Comnor sta stringendo la presa dell'imperatore Palpatine sull'armata e la burocrazia imperiali. In tutta la galassia, le prime scintille di una nuova ribellione accendono nuove fiamme di speranza per la libertà. La forza militare di Comnor, chiamata Compforce, attenzione, prenderà i punti su Starface. Sta per prendere parte in un'azione militare contro la recente insurrezione sul pianeta del lato Rim di nome Camino. Di nome? Camino, con la K. Ok, sì, sono Camino. La parte che tu non sai, che non c'è scritta qui, è che voi siete un gruppo che sta, tipo, che si è arruolato nella Compass, che è una specie di esercito nell'esercito, un esercito personale liberatore, ok? L'SS. Il vostro addestramento è durato tipo 4 giorni, a parte Salla e Andrea che... Un po' di scusa, non potremmo battere. Cioè, voi tipo, questa è la prima operazione, la prima missione. Vanno buttato là. Cioè, andate, questa armatura, questa. Ma perché siamo figli e siamo bravi no. O perché siamo. No, perché siete cadenati per caso e siete tutti un po' stronzi. Soprattutto, praticamente quasi nessuno di voi si è arruolato perché si voleva arruolare. A parte che non vuole rispondere. Allora, quindi benvenuti, non so chi ci ascolta, probabilmente. Benvenuti a. Non so come ci chiamiamo noi come gruppo, gli abruzzesi, veniva di dire beh, cioè, c'è solo un abruzzese a fare. Sì, Andrea è in diretta. Andrea non è in diretta, non stiamo streamando. comunque Andrea, se parli solo così non ti si sentirà per niente. Siamo le bestie di Sith. Ah no. Vabbè, possiamo anche decidere dopo, poi ce l'ho molti quindi, soldi. Quindi, in sostanza, voi siete qui per i vostri motivi più disparati, ognuno sa il suo. E siete stati letteralmente lanciati come un salame in un corridoio. In questa mi piace, Meno motivazione, più. In questo momento siete in uno shuttle che sta andando verso Camino. Ok. Allora. Cioè, l'unica cosa che ho scritto sono queste due parti, cioè giusto l'introduzione. No. Ti ho messo per rire. Spoiler della campagna. Non ho preparato nulla. L'improvvisazione. No, io non giro una cosa. Sono uno strano. Era ora, cazzo. Oggi no, gliel'hai detto che muoiono 3 su 1 persone, com'è? Eh? Una su 3 persone muore. No, è vero. Tu di questa cosa, di questo esercito, sai solamente, vabbè, è rimasto impresso perché ci ha messo 3 ore a calcolare quanti di voi moriranno. Scusa, vai. Ogni persona che sopravvive, cioè per ogni soldato che sopravvive alla prima missione, 2 sono morti. Quindi noi che stiamo insieme quanti ne muoiono? Veloce. Vedi, che è difficile. È difficile. 2 sopravvivono. 2 sopravvivono. Ah, ha detto 1 più 2 più 1 è il 33%. Giusto, il 33%. Arriva il corso serale sulle frazioni o possiamo? Sì, invece che le frazioni, ci sono le frazioni, questo... Preferendo i frati. Dopo Luca l'ha fatto a contare frazioni che pare di contare... Contare, direi, 5 mezzi, così almeno è più di 2. Le luci tremolanti della stiva illuminano gelidamente i posti neri e elmetti. Luccicanti, vorrei dire. Neri, luccicanti, alcune bianco, vabbè. Facciamo finta che sono neri, dai. No, perché le maschere sono bianche. Quella è più bella. quella è la più bella, la maschera di Vex. Oh mio Dio. Persino. Siete una dozzina di Stormtroopers, più o meno. Cioè, l'armatura vostra ricorda molto quella di Stormtroopers. Speciali, dall'armatura nera, che è brillante, nera, molto lucida, con dei dettagli crevisi. Ma non dorati alla trash brutale. Scrivetevi sui vostri personaggi che avete una Stormtrooper Armor con 4 del Gumbrands, 2 di Sock e basta. Allora, sarebbe Gumbrands, non vi serve perché tanto non avete nulla addosso che vi possa generare Gumbrands. Dovete scrivere che avete un Armor che ha Sock 2. Non c'è il... Io non ho preso il borsellino. Cioè, il vostro equipaggiamento sostanzialmente è un'armatura stile Stormtrooper che ha 2 in più di Sock, cioè dovete aggiungere 2 al vostro Sock temporaneamente, diciamo. Per ora. Cos'è il Sock? Cos'è il Sock? Ve lo spiego quando qualcuno vi colpisce. Ok, allora aspetta, l'ingombranza quanto? 2 Sock. Scritto all'inizio della prima. Giusto, scrivetevi che per questa sessione avete più 2 di Sock. Più 2. Ma io ho già 2 qua. Più 2. Cioè, più 2 se non indossi niente. Ah, ok. E poi avete di arma, aspetta, una blaster pistol e l'ingombranza che è invece? No, la sono lasciata, tanto il minimo è 5. Io avevo già 2 di Sock sul personaggio, non so. 2. Quindi 4. Però a matita, cioè. Sì. Avete una blaster pistol di ordinanza che ha danno 6, l'ingombranza lasciamo perdere, range medium. Blaster pistol, damage 6. Range medium, per tirare dovete usare l'abilità Ranged Light. Più piano. Blaster pistol cos'è? Danno 6. Range medium. Rush 6. Per tirare, cioè per sparare, dovete usare l'abilità Ranged Light, nella lista delle vostre abilità, quelli con i dadi. Quindi danno 6, critico? Critico 3. Critico 3. Mi sembra. Range setting, ovvero voi potete dire che non state sparando per uccidere, che avete impostato la modalità quella per stunna che usano su Lela Unipede 4. E Andrea ha un comlink, te l'ho detto, sì. Tu hai il comlink, quello planetario. Cioè interplanetario. E gli hard points? Gli hard points non ve li dico perché questa pistola vi verrà tolta a fine sessione, quindi sono i slot per le mod. Spoiler. Esatto. Sono i slot per gli spoiler. Visto. La stessa. Allora, una cosa, io mi ero preso anche armatura tipo blaster. Ti verrà data dopo. Questo è quello che indossi, questo è l'equipaggiamento che hai. Okay. È solo questo addosso. Ok, quindi anche i comlink che mi sono comprato ce l'avrò dopo. Niente, voi, i vostri comlink sono nei caschi. Voi sentite solamente quello che Andrea vuole far sentire. perché Andrea è il posto leader in questa missione. È presente quando non volevi parlare. È geniale perché è geniale perché io sono il leader di Andrea. Dai, è solo quello che dice no. Andrea. Andrea è Salla. È la prima volta, fallo fa qualcun altro. Salla anche ha un comic. Qualcuno che abbia esperienza. No, il leader è Andrea, però Andrea mi venera come un suo dio e quindi... Okay. E quindi lui è leader. No, quindi tu vieni a chiedere a me e poi io ti dico le cose e tu le dici agli altri. Benissimo. Okay. Mi piace. Dai, questo è quello che vedi addosso. Ok? Ok, sì, sì. Solo questo. A parte Andrea che c'ha il datapad del Comlink e Sala che c'ha l'altro Comlink. Gli scossoni dello shuttle in rapida discesa fanno perdere l'equilibrio a qualcuno di voi. Non dirò chi. Uno degli altri, che non ha perso l'equilibrio, ha dei conati di vomito e sentite l'armatura che gli somministra meccanicamente un calmante. Uno di voi, poi, inoltre, ha un'armatura troppo stretta e con alcune parti scoperte. Indovinate chi è? Il ciccione Luca Oddis, che ha quattro braccia e... Cioè, due braccia in più. Ha due braccia in più, quindi l'armatura... Quel power player che ha scelto la razza OP. Esatto. Vedete che in mezzo a tanti umanoidi, Luca è un po', stona un po' perché ha quattro braccia. Vedete un tizio con quattro braccia. Più armi. Diciamo che ad alcuni di voi nello shuttle, non di voi sei, voi tipo quei 20 che state nello shuttle, tremano le mani per la paura, per il nervosismo. Okay. Adesso a turno dovete dirmi come ognuno di voi reagisce a questa paura, tra virgolette, cioè quest'ansia della missione che sta per avviare, cioè, che posso dire, del portellone che sta per aprirsi, della battaglia che arriva, okay. Il vostro primo combattimento vero. Leroy Jenkins. Vai. Ma sull'armatura devo mettere le canzoni, tipo? Dovrei ripostarlo? No. Allora, no. Non lo so, tipo... Io cerco di non pensarci canticchiando qualche canzoncina felice nella mia testa. Andrea? Vai, ci pensa. Salla? Questi reclute mi faranno ammazzare. Cristiano? Io, visto che sono bravo nel ranged light, comincio a smontare e rimontare l'arma per... Allora Luca nel frattempo? Boh, io non sono tanto preoccupato perché so, cioè, dopo tutto è una buona opportunità per fare carriera in esercito e non essere più discriminato. Anzi, non sei, cioè, sei eccitato. Esatto, anch'io sono eccitato, sono curioso. Io guardo, vedo lui che smonta e rimonta l'arma e dico questo coglione la sta rimontando male. Col grilletto. Vedete che uno di voi indossa un'armatura bianca che stona un po' con le vostre, con un grosso simbolo rosso dietro la schiena. Che è una stella di David sulla spalla. Che vuol dire? Io lo so. Sei il medico da campo, quella è l'armatura del medico. Oh. Scusa, cosa ho pensato? Sì, infatti, no, lo fa vedere Salto, il simbolo dei medici, insomma. Cioè, è facile, se vai a Firenze devi andare su Salla mi ha battuto. Finalmente sentite uno strattone, il portellone rilascia vapore di condensa e le luci della stiva diventano rosse. No, così lo tengo. L'atterraggio è imminente, queste luci rosse vuol dire che dovete tornare via a Astra. Sentite rumori di buzzer che impattano contro lo scafo e delle urla fortissime fuori. Con un altro forte strattone, lo shuttle a terra e vi scuote dalla trance dell'attesa. Il portellone si apre e i tre trooper in prima fila che stavano davanti a voi muoiono all'istante. Vengono colpiti dai colpi di buzzer. Ottimo. Tirate inizio. Allora, dovete dire... Vabbè, perché sono morte, se erano 20 persone vuol dire che quanti... più probabile, esatto. Allora, tirarmi tutti quanti Vigilance e Cristiano Cool. Aspetta, come faccio a tirare? Di tirare quanti dadi benissimo? No, scusa, è il contrario, tutti quanti Cool, Vigilance. Ah, Cool. Quello è Cool. Valerius, sei interessato? Cool sarebbe, oh, figo, sembra una farfalla, prontezza, sarebbe tipo prontezza quando succede qualcosa, perché tipo scendere tra scendere la ah no, la will power, cazzo. Eh no, qua ci incula male. Solo che cosa? Presence, peggio. Qua c'è stata inculata per noi, Andrea. Invece tu cool sarebbe mi sembra giallo. Ah, sì? No, sì. Presence no. Qua è terribile. Sì, sì, per noi è l'inculata più grande. Esatto. Cioè, ma hai scaricato... Cullus a Presence, no? Che sì, sì, sì. Ok. Aspetta una cosa, ma hai scaricato il mio aggiornato, tipo il giorno d'oggi? Non so se stai guardando il nostro schermo. Ah, io sono giallo. Il tuo aggiornato? Perché? Che ne so? Cioè... Scusa, ma che ho poi comprati i dati. Significa che hai un dato di un punto l'abilità. Cioè, no, non di questo. Hai un punto l'abilità. Poi due addirittura. Vabbè, no, cioè, no, non so. No, vabbè, no. Non sapevo se guardare magari le schede. No, no, no, io sto guardando. Stavo pensando. Vabbè, ma mi sono allora, vabbè, intanto vedo questi. Vabbè, no, io so. No, quello qua così mi rimane. Ah, c'è più? Ok, posso. Non capisco. Hanno scritto una scheda che sembra mezza di Stamborsa, mezza di D&D, non si capisce. Allora, questi sono tre. Quindi ne tiro due. No, quindi dobbiamo tirare? Due. Tirate, ditemi che fate. Allora, io cool. Devo tirare tutti quanti cool e Cristiano Vigilance. Io te lo posso dire che ho già fatto. Allora, io ho fatto due successi. Un'esplosione e due pelle. Valerio, allora l'esplosione è successo, le chele sono aumentate. Quindi hai fatto bene? Non c'hai niente da tirare oltre a quello, quindi... Cioè questo è per l'ordine di iniziativa, non c'è un contrapposto. Questo che significa? Un successo e un vantaggio. Quindi che c'è un 2? È meglio il successo e il vantaggio. Successo meglio. Ma perché? Che significa che c'è un 2? È un mezzo successo. Quindi c'è un successo. Ah sì sì sì, anche l'ho fatto. Quindi successi una? Cioè, ma come è meglio? Ma che ne so? Sicca? E uno così? Medico. Questo qua con l'alloro. Sono medico? Cristiano ha fatto come meglio, successi un vantaggio. Arrivo, scusate. Okay. Ma quindi ha fatto schifo? No, io ho un successo un vantaggio. Vuoto. Ah, c'è anche vuoto? Ma non sono i negativi. No, perché no. È ordinario così. Sai che tutta quella roba entra nel microfono, vero? Un super successo. Vai, vedo. Due successi. Ma fa ancora no. Cavolo, può essere. Ma da quanto è? Perché... non esiste due successi sul lato verde. Esatto, bravo. Salla? Oh, lo sai che ci abbiamo 10 segnali vantaggi. Luce? Sì, è stranissimo. Ma non è positivo. No, non lo so. Ma mica l'ho detto in maniera allora, ma io sono medico, devo essere positivo, guarda, anche nelle più oscurità. Anche io. Sì, sì, abbiamo operato 8 pazienti, ne sono morti 15. Allora, oddio. Non c'è un intervento con il più alto numero di morti. Diciamo che allora, la prima cosa che vedete è dei colpi a caso. Tipo nella stiva dello shuttle. Sono Stormtrooper, raga. Che rimbalzano un po'. Ma pure noi, che rimbalzano un po'. E due colpi in particolare, vedete che vi sfiorano, cioè proprio vi passano vicino vicino, nel senso. Già cioè, una cosa. A voi, cioè vi sfiorano. Perché voi siete tipo un blocco in fondo alla stiva, cioè. E sentite tutti quanti, anche Andrea e sala nell'intercom, cioè nel comming del casco, sentite fuori, fuori, tutti fuori, così. Tocca a Cristiano. Ma è a turno? Non ho capito. Cioè, no, scusate, non è a turno. Scusate, questa cosa pure è diversa da D&D. Voi avete gli slot. Essenzialmente, ogni tiro che fate di iniziativa crea uno slot, e anche i nemici creano uno slot. Voi quegli slot potete assegnare a una persona ogni turno come vi pare. Per esempio, al primo turno io vi dico, raga, i nemici hanno due slot all'inizio e voi c'è tutti i slot dopo. Quindi l'ordine con cui giocate è differente. Cioè, prima giochi tu, poi gioca Cristiano, poi il turno dopo gioca prima Luca, poi gioca Valerio. Cioè, chi lo decide, scusa? Lo decide noi, come team. Ah, cioè, come io voglio, che ne so, faccio giocare prima me che sono stanco, così metto subito davanti. Esempio, ah, carino, carino. Magari serve proprio una cosa che serve uno dopo. Esatto. Cioè. Quindi adesso che tocca a Cristiano, in realtà tocca lo slot, agli slot, i due slot che hanno fatto Cristiano e Luca, ma in realtà avete sei slot e poi tocca ai nemici. Cioè, giocate tutti insieme perché i nemici sono i primi due. Ok, quindi ognuno di voi mi dice cosa fai in ordine sparso. Ma un secondo, i nemici, adesso, cioè noi adesso li vediamo perché non so. Allora, voi se vedete fuori dalla stiva, vedete il paesaggio di Camino. Nel film, cioè, ci sono le piattaforme su questo oceano che copre tutto il pianeta, no. E vedete che vedete in fondo a uno di questi, diciamo, cerchi senza strutture sopra, per le piattaforme circolari, tipo piattaforme di atterraggio. Su una di queste piattaforme ci sono tipo delle trincee con dentro dei, sembrano da lontano, dei stormtrooper come okay. Voi che vi sparano addosso, però. Vi stanno sparando addosso. Allora faccio perception. Allora, tu... puoi tirarmi di... c'hai lore, tipo conoscenze... c'ho streetwise... ma io sparerei... allora, Underworld... eccezione che io farei fan. Più qualcosa di lore, di storico, cioè più che... lore? Fai lore, sì. Scusa, io posso vedere se quei tre che sono... o perception, se vuoi provare a vedere meglio... no, perché cioè... c'è qualcosa di strano in questi stormtrooper, visto che stanno sparando... vabbè, allora vado meglio, ma tu guardi meglio, sì. Perception, ognuno un giallo, due verdi. Sì. Considera che questa è l'azione, capito? Sì, sì, sì. Io ti non mettere la prova di un'azione. Posso vedere? Se... posso vedere se quelli che sono colpiti sono morti? Oddio, detto in maniera cattiva. Ho fatto. Poi sono un medico, devo vedere se la gente è morta. Cioè, sono stati colpiti. Ma poi, no, poi. Ho fatto 5 esplosioni e 5 successi e 2 vantaggi? E un vantaggio. Un vantaggio. Cacchio, un bel tiro. Cazzo, bello, ok. Però non ho detto difficoltà. Ah. Difficoltà 2. Quindi? Più uno, cioè dovresti mettere 2 viola e un nero. Una cosa, togli questi e tira i viola. No, posso bloccare questi. Ah, puoi bloccare. Tirare 2 viole almeno, diciamo. Perché la vostra stiva è molto più scura rispetto all'esterno del... No, si è spostato? No, è rimasto come prima, però... no, questo si è spostato. Però è rimasto lo stesso risultato. No, prima era 5-1. Ah, sì, è vero, sì, sì, basta sì. Che sommi a quello che ti è venuto. Sì, cioè... sì, no, sto andando a vedere. Quindi una viola e basta? 2 viole o nero. Non mi ricordo se quelli premuti erano presi... sì, sì, sì. Ritira tutto poi prima. Allora, quindi avevi 5 successi e ne togli 2, sono 3 successi. Avevi 2 vantaggi, un vantaggio. Ah, quindi ha 3 successi e uno svantaggio. 2 successi e uno svantaggio. No, 3 successi e uno svantaggio. Puoi dirmi qual è lo svantaggio? Non lo so, o te lo dico io. Che muori. È bello svantaggio, è un grande, no, un piccolo svantaggio. In tutte queste esplosioni c'è un po' di fumera, quindi magari non si può vedere bene. Però diciamo che ho avuto successo, quindi cioè, tu ce l'hai fatta a vedere. Ah, okay. No, esatto, io, diciamo, tu ce l'hai fatta a vedere meglio, però con lo, cioè, col fatto che ti sei impegnato, ti si attiva il visore termico del visore, cioè del casco, perché tipo non so, aveva capito che poi sì, sì. Attivarlo, e quindi per il prossimo turno c'è uno svantaggio a mirare, non lo so. Non puoi mirare, insomma, al prossimo turno, in sostanza. Perché, non ho detto questo, voi potete usare la vostra manovra invece che per muovervi, per mirare meglio. Aggiungendo un tipo il tiro mirato di... Sì. Quello che tu vedi è che in realtà non è un'armatura da Stormtrooper, cioè loro non sono vestiti come Stormtrooper, hanno un'armatura più mandaloriana, diciamo. Cioè, hanno, insomma, sono i cloni, cioè sono vestiti, sono l'armatura, hanno addosso l'armatura dei cloni in pratica. Tu non sai di preciso come hanno fatto, cioè, non, cioè tu sai vagamente come l'armatura dei cloni, però capisci che potrebbe essere quella, insomma. Ragazzi, questi sono dei cloni. Lo dico, sì. Non costa niente. Ma molti cloni! Quindi Cristiano ha fatto uno slot. Come il slot? Uno dei sei slot. Avete 9 punti luce e uno lato scuro. Scusa, lui tipo per prendere a controllare i feriti e usa uno slot. Usi uno slot? Cioè, no, è una domanda, cioè, usano No, sì, devi fare l'azione. Cioè, vabbè, certo, ti sono feriti, io sono un medico. Allora, sprega uno slot. Qual è io? Diciamo, tu dici un po' regolare quanto tempo ci metta, diciamo. Cioè, tu devi pensare, cioè, si mette là, facciamo, tu perde tempo, effettivamente. Capito? I tre che stanno avanti, quindi ti sposti, fammi un tiro, quindi ci dai un'occhiata. E con difficoltà uno. Quindi devo fare due... Devo fare 3 verdi e 1 giallo. E un viola. Un mio mentore. Perché è nero? Perché ci hanno dato il boss. Però non c'ho abbastanza verdi. Sono qua. Ovviamente. Intanto io ho una domanda per Jacopo. Tre esplosioni. Due gene, un utero e un pendolo. E due pendoli. Allora... essenzialmente hai 0 vantaggi e 2 successi, quindi ce la quindi fai. Due le capisco e uno no. E che è morto. No, ce la fai, praticamente capisci che sono morti. Ma non c'è la fai. Scusa, sei grande medico. Circa cos'è? Svantaggio e insuccesso. Bravo. Io guardo i mani che faccio. E perché 0 vantaggi? Cioè, capisci che i colpi che hanno subito... due hanno ucciso all'istante, cioè due hanno colpito la testa e sono caduti giù già morti. Ah, nero, non ho visto. Un altro ha subito un trauma che non puoi, cioè, sta morendo di merda sola. Puoi provare, puoi provarci, ma sta per cioè. Ho due domande per il master. Quanta è la difficoltà, posso saperlo? No, però cioè, se puoi provare. Ma così si prova un altro slot. Ma non è morto. Te lo dico dopo, cioè per dopo. Ah, no. Non sono morti questi. Sono morti! Allora, che cazzo curi? Vabbè, ho due domande per il master. Una è l'equipaggiamento dei tizi morti, è tipo il nostro. È uguale identico, quasi vivo. Il loot, ora e sempre. Lo sa, già comincia a rubare. Già sta lottando. Quasi vivo, quasi morto. Non ho capito però, perché? Seconda domanda. Magari avevano delle granate, cazzo ne so. Seconda domanda, quanto regge dove siamo ai colpi di quelli fuori? Quanto, scusami? Quanto può reggere dove siamo ai colpi di quelli fuori? Cioè lo shuttle, quanto tempo può reggere i colpi? Esatto. Più o meno, allora, un'idea ce l'ho. Ce l'hai un'idea? Tiro? No, dai, non ti faccio tirare. Poco, un minuto. Ok, e noi comunque dobbiamo entrare e picchiare la gente che è lì, immagino. Cioè, vi stanno dicendo su comic di uscire dallo shuttle e cominciare a sparare. Beh, raga, uscite e sparate, cazzo. E faccio un tiro di leadership. E faccio un tiro di leadership per dirgli di uscire e sparare. Ok, terzo slot, chi usa? La difficoltà qual è, però? Per cosa? Per il mio tiro di leadership e dire uscite e sparate. Ma direi un bel 2, ci sta. Un bel 2, considera che io tiro un dado solo in leadership. Merda, che leader sei, grande, allora è un insuccesso e due svantaggi. Magari se dite uno, vai stupidoni, uscite. Avete scelto i leader sbagliati. vorrei che lo svantaggio è che gli svantaggi sono che io sono convinto che loro mi seguano e quindi intanto esco. Perfetto, anche se forse più abbiamo preso entrambi perché si Zabrak. Ok, io vedo uno che fa dai ragazzi e poi si trova e siamo brutti al cazzo. Io adesso esco e sparo. Esce e sparo. Allora, quindi ha funzionato il discorso. Allora, ora ti monti la testa. C'è un gruppetto a sinistra di circa tre cloni. Sinistra tre cloni, ok. E un gruppetto a destra su un'altra piattaforma abbastanza lontano, più numeroso. Lontano più numeroso, quindi quella a sinistra sono più vicini. Range medium a sinistra, range medium a destra. Ok, perfetto. Ragazzi, i tiri qui non si fanno a piedi, cioè non c'è distanza in piedi precisa, è un boccazzo. Cioè, engaged che è praticamente così. short che è tipo da tra me il fine del tavolo, medium che è normale, cioè engage normale, long che è tipo distanza da cecchino, e poi gli altri vabbè sono infinito. Ok, noi siamo infiniti. E l'arma che c'era 2 è meglio, hai detto, giusto? Quindi ho cioè vuol dire che voi per sparare la longa avete molto più difficoltà, capito? Ok, perfetto. Sparo col blast, sparo col blaster a uno dei tre. Ok, quindi medium devo avere 2 difficoltà, giusto? Sì, perché è medium la cosa. Hai un nero perché ha una bella armatura, ma meno nero. Ok, vediamo questo pull cosa ci. Allora, direi molto male. No, direi che beh, direi che siamo in un successo. Questo va bene. Luca, non sai quanto sto godendo in questo momento. Però un vantaggio, quindi non ho colpito. Però sì, grandissimo. No, scusami. Ah, cazzo. Il vantaggio può essere magari che mentre sparavo ho fatto in tempo magari a guardarmi intorno se ci sta qualche copertura, non lo so, non è che mi sono messo, però ho dato un'occhiata intorno e magari mi sono sì, hai visto che praticamente lo shuttle è atterrato in un punto in cui la battaglia già si era svolta, quindi c'è una specie di copertura barra trincea già, cioè, già preparata, mezza distrutta, però la prego usando. Ok, per il prossimo turno magari. E okay. Tocca a qualcun altro. Vado io. Ma allora, prima no. Bottiglia. No, beh, era per dire. No, male. Attacca prima tu. Attacca, cioè, mi attacca e non ci attacca. Esatto. Tipo, per arrivare da dove siamo, a quello che ha visto Luca, il posto che ha visto Luca, e sparare, no, si può fare, è troppo lontano. Sì, con una manovra ce la fate. Ah, ok. A sparare, sì, sì. Allora, io... No, sparare, mettervici... Come ah, spero senza sparare. Se sparare devi usare no, strip. Sparare usi azione, per muoverti usi manovra. Allora, sì, sì, io sì, uso la manovra scusa, per appunto mettermi dietro una copertura, cioè uscire e mettermi dietro la copertura. Poi sparo al primo che vedo. Quindi sì, quelli a sinistra che c'hanno la... Cioè, adesso una buona tattica. Okay. Quale? Manovra e sparare. Allora, bravo. Meglio, ma sono due difficoltà. Ok, Rigid Light, la cosa? Sì, sì, sì. Combine il gioco, mica mi devi istruire. Scusa, cioè, se non c'è un per viaggio. Io gioco. Cavolo, che bella questa spiegazione, chi l'ha fatta? Io non Flip. Se la volete scaricare, ripgdrwordpress.com. Esatto. Io quello lì che ho visto io non riesco a scoprirlo. Se hai dei problemi a aprire l'applicazione, scrivi a ripgdr.com. Il database di Java è stato aggiornato. No, dove sono i dadi? Fammi tirare, va. No, sì, infatti preparati in full, semmai. Tanto, quando è? Se tu vuoi sparare sono 2 viola per sparare. Il resto tu l'ultima trovi. L'ultima è l'unica cosa che devi considerare. Il nero pure? Scusa, tu hai 2 ah, sì, nero due verdi e 2 viola. L'armatura, sì. Bravo. Perché questo è un loro quello l'ha detto Iago. Funzione che c'hanno loro. Esatto, questa è la difficoltà. Sì, dipende dalla distanza, cioè short è uno successo. No, no, quello è un altro tiro che hai fatto. Quindi. Ah, short è uno. Ah, engage, cioè musa musa? Niente? Long range 3? No! Long... Praticamente vedi che mi sparo sulla copertura e la copertura salta. Praticamente sì. Come sto per dire io. Cioè, quale copertura? Vedete l'altro che tipo, per prendere bene la mira e non farsi sparare, mette il fucile sulla copertura, spara e la copertura esplode. Quindi non c'è più la trincea? No. Cioè, no, c'è più piccola. Cioè, sono 2 persone invece che 3. Cioè, guarda, adesso lo scopro. Vabbè, da giorni no, sono posso, quindi io ci posso andare? Lì dove serve il centro? Giustamente, Edoardo sta tenendo fede, no, sta tenendo fede allo stereotipo degli Stormtrooper che non ci stavano bene. Vabbè, allora io seguo lui. Metti dietro la copertura e spari? Sparo. Ok. Quindi devo usare questo? Sì? Ah, scusa, c'era anche un nero. Vabbè, non che dovesse migliorare le cose, anzi. Diciamo che va bene al contrario. Range light. Range light, sì. Se una incessa. Yeah, in successo. No, hai fatto 4 successi. Allora, hai colpito e hai fatto 6 danni più 3. Aspetta, aspetta. Sono 2, 2, 4, 5, meno 1, 4. Sì. Un vantaggio, meno 1, 0. Cioè, no, quindi qualche... ah, okay. Il successo è un beneficio. Le altre 3 vuol dire che fa più 3 danni. Quindi io faccio... Quindi, aspetta, i danni normali che sono quelli dell'arma, 3? Giusto? No, 6. 6 più 3? Più 3, 9. Ah, ho capito. Perché vede un clone 4. Ah, vede un clone che gli esplode la testa. No, vabbè, siamo in questa posto. Vede un clone che viene colpito. Folgorato. Folgorato. È Disney. No, vabbè, molto più. Molto più. Ma deve fare. Se avete finito, è Valerio. Ci manca uno. No, 1, no, 2, no, 2 persone, 3, 4, Sam, 5, 6, no, la cosa. No, Sam non ha fatto niente. Sam ha fatto leadership. Hai fatto leadership, davvero? Certo. Sì, è stato orribile. Però siete, scusate, quanti sono usciti di voi? 3. Quindi ho delle grandi doti di leadership. 3 su 5, okay. Cazzo. L'hanno ignorato. Tocca, avete i due controper rimasti che prendono il clone che avete, cioè avete spalle e cominciano a tirarlo, cioè a torpenderlo, tipo a farsi indietro. No, che buono. E se vi fa iniziativa e niente, ditemi. Ah, cazzo, comincio io, rega, continuiamo avanti, cazzo, vedi che hanno paura, via, dritti, e faccio un altro tiro di leadership. Voi se vi fa iniziativa perché gli italiani che sta a destra di il trooper è molto lontano, non gli ha ancora ingaggiato, sta sparando altre cose, cioè. Ok, bene, diciamo. Ma qual è la nostra missione? Lo sappiamo? Esatto. Allora, quello che sentite, che avete sentito voi nell'intercom è semplicemente fuori, cioè voi non sapete nulla di quello che dovete fare, non sapete, cioè, okay. Quindi possiamo fare un incomplink. Ok. Possiamo fare posso fare tipo un tiro per capire cosa sta succedendo intorno, no? Situazione. Che devo dire? Ma potresti anche chiedere alla base, tipo al tuo cazzo di comandante. Cioè, che cazzo allora, puoi fare un tiro per capire cosa sta succedendo in Perception, puoi fare un tiro in lore per ricordarti cos'è questo pianeta, puoi fare o Outer Rim, o puoi fare il comlink per chiamare il tuo superiore, quel ti pare. Allora, faccio un tiro in Perception intanto. Ok. Difficoltà qualcosa che devo fare? Difficoltà 1, cioè, è abbastanza facile. Un viola? Sì. Perception. Qui tu vuoi capire cosa sta succedendo in questo momento. Sì. Bene. Se un trionfo è un trionfo, no? Due gare, 3 successi. 3 successi, 2 successi e 2 vantaggi. Due vantaggi. Il vantaggio è che, vabbè, non lo dico. Il successo è che capisci cosa sta succedendo intorno a te. Il campo di battaglia ci sono essenzialmente solo due fronti: il fronte davanti a voi, che è dei cloni che sparano verso di voi, e il vostro, cioè, no, scusate, non due fronti, sono due fazioni: la fazione dei cloni che spara verso di voi, e la fazione dei stormtrooper della Comforce, che siete voi, che sparano verso i cloni. La forza che sta attaccando siete voi, la forza che sta resistendo sono i cloni, e capite che l'avanzata dell'esercito con la vostra, della Comforce, è verso l'interno di queste strutture circolari sopra all'acqua. C'è una struttura bella alta, bella, cioè coperta, tipo cupola così, al centro del gominato dove siete voi. Vedete che l'impero, cioè la Comforce, gli altri shuttle stanno cercando di spingere a sediare. Mi sembra di vivere questa cosa. Più di quanto pensi. Stiamo Battlefront. Bene, andiamo dritti. Allora, assediamo il posto. Questa è la situazione. Tu mi hai chiesto la situazione. Sì, il vantaggio, okay, è che capisci anche un'altra cosa. Capisci dalle comunicazioni radio del comuni che c'è in mano. Mm-hmm. Che c'è una persona di interesse che sta aspettando, non proprio voi, però sta aspettando che arrivino rinforzi. Mm-hmm. in una posizione abbastanza centrale, cioè abbastanza vicino all'altro edificio che dice a questi di lontananza, che si chiama, che si chiama, come si chiama questo tizio? Dove cazzo sta? Jaster Merill. Justin? Jaster, scritto con la J. Jaster Merill. Jaster Merill. Noi sappiamo chi è? No. Puoi tirare, se vuoi, a ricordarti, ma... In cosa? Lore. O Underworld. O Streetwise. Streetwise. Vai, si è il Streetwise. Difficoltà? Due difficoltà. No, scusami, tre difficoltà. Io un van... Aspetta, tre vantaggi, quattro vantaggi. Un successo. Un successo. Sei vantaggi. C'è quattro. C'è quattro danni. Più un nero, no, meno un nero. Insomma, ah, beh, eventuale il nero, vabbè, però non c'è, non c'è. Non c'è perché sono tre viola e basta. Quindi devo tirare... Ah, tre viola. Non ci sono tre viola. Due svantaggi. Beh, tirare uno all'altro. Tre svantaggi. Merda. Ce la fai a culo e... Niente, se questo Jaster Merill hai sentito che è uno... un tizio che ingaggiano per dei lavori poloschi. Cioè non è uno che lavora solo con l'impero. Non hai sentito che è uno che usano per dei lavori un po' di qualsiasi genere, soprattutto taglie, cose così, cioè nel senso... Oh, ok. Il senso di impotenza. Ma tutto questo quanto lo sappiamo noi e quanto andremo. Cioè, io sto ascoltando le informazioni dalla... Lui ha il comlink, quello che comunica con la nave base, diciamo, cioè con l'impero direttamente, okay. Con i suoi superiori, e sente le comunicazioni fra... generale, sto tizio è un'altra truppa e sente sta cosa, cioè sente andate da sto Jaster Merill, bisogna di rinforzi più vicino a questa struttura, insomma. Ok, perfetto. Vabbè, io mi sono vabbè, io riferisco a tutti, cioè quando il raduno cerchiamo di andare su questo tipo. Ok, andiamo quindi. Va bene, va bene, mentore. Oh mio mentore, sì, com'è che ti chiami tu? You. Come ti chiami tu? Io. Questo deve essere preparato. Sei un elfo? In inglese sarebbe meglio. Ok, you, mi sembra un ottimo piano. Andiamo. Va bene, quindi io ho un attimo di dubbio che non è favorevole a noi, però hai tirato l'obbligazione? Cristiano, quanto cazzo c'hai di obligation? Perché non è sto... Perché non è sto... Che cos'è obligation? Scusate. No, cioè perché voi non ce l'avete forse user. Oh, io volevo salvare il morto. Per tutti quelli che stanno ascoltando, le ha già tirate, però stiamo facendo finta che... Stiamo, esatto, questa è una burla. Esatto. Ma tu sei un forse user, non sei un medico coraggio. Non si può dire questo. No, non lo sa neanche lui, non lo sa neanche lui. Non lo sa neanche lui, ma non è né un force user né un medico. Obligation, che è pochissimo. Sono un guardian. Cose che tre normali e tre force user, quindi ci sta. Quello è il force user. Ah, pure sale il force user. Certo, power player. Scusa un attimo. Player. Sale è più potente. Sale è l'unico iniziato nella forza e spaccherà tutto. Iniziato nero, ma non finito. Tre viola non è. Lui non sa neanche che ce la fa. Ok, può ce la passa e io la sono. No, ce l'ho senza male. Oddio mio, ma che so sti uteri? Aspetta. Io so che cos'è, ma. Un momento sei. Non è successo un cazzo. No, perché ma. Oddio mio, che vuol dire? Mi attacco una malattia. Sì, cioè, allora... stai provando a rianimare un cadavere? Ma che cazzo di medico sei? Lo uccidi, cioè nel senso non lo uccidi, cioè muore mentre lo stai cercando di salvare e uno spizzo di sangue ti copre il visore, quindi diciamo che hai un attimo di panico. Per fortuna abbiamo il medico. E quindi sono sporco. C'è il visore sporco, mi racconto del parto. Un'altra morte sul campo. No, Johnny! aggiungi un'altra morte. Per curiosità... Hai mai salvato qualcuno? Una curiosità, hai mai salvato qualcuno o no? Beh, per adesso è la mia prima missione, quindi diciamo che sono a quota. Quindi diciamo no. I famosi due morti per uno, per uno che sono rimasto. Colpa di Valerio. Valerio lui si assicura che i morti siano gli altri. Esatto, ah, esatto, lui, no, lui sta le statistiche, quindi ammazza la gente. Può capire. Su un aereo con la bomba. Secondo le statistiche possiamo fare quello che pensavo questa. No, dobbiamo dire ancora qualcun altro per stare sicuro. Un'altra persona. Lasciatemi salvare qualcun altro, ci penso io. Salvare qualcuno mi sembra ottimo. Bene, quindi partiamo. Date come ditemi come mi muovete, se vuoi vi dice, ti descrivo un attimo come è fatto, cioè essenzialmente se non hai giocato a Battlefield sono tutte piattaforme, no, mi ricordo che tutte piattaforme circolari sull'oceano. Alcune piattaforme hanno un piccolo rialzo con una torretta aerea. Altre piattaforme hanno semplicemente uno spiazzo con dei trincei. Obi-Wan contro Jango. Ogni piattaforma è collegata alle altre con un paio di ponti, uno sopra e uno sotto, cioè uno solo a livello, diciamo, superficie e uno un po' più a livello dell'acqua. C'hanno dei enormi, cioè proprio cavalloni di 20 metri sotto le sei piattaforme. A volte arrivano proprio a ridosso della piattaforma. Essenzialmente sono tutte quante disposte come se fossero delle... di un grappolo d'uva, cioè immagini tu un bambino che mi segna un grappolo d'uva, tutte quante insomma messe una a fianco all'altra, tipo a triangolo. Voi siete al momento molto vicino al vertice in basso a sinistra, dovete arrivare al centro del triangolo, diciamo. Non da ci sta la torre, da ci stanno quelle... Non c'è una torre, è una specie di cupola di struttura chiusa molto alta, perché il resto è molto, cioè, basso, si vede. Ma le torrette intere si possono usare? Sono tutte distrutte. Per passare a... Cioè ai livelli sopra dobbiamo comunque entrare dentro la struttura principale. Non posso, cioè, non allora non voi posso... adesso non potete scendere. Cioè nel senso potete stare solo scendere e salire. Né scendere né salire. Poi rimanere solo lì in questi. Ah, qui ci andiamo verso il centro della struttura così. Se volete dirmi che ne so, tipo come fate, cioè nel senso io vi posso descrivere come vedete. Ripeto, a destra sono le piattaforme un po' lontano, ci sono dei cloni, all'interno dei cloni, che non abbiamo visto ancora. Okay. Andando avanti vedete che ci sono dei altri colpi di blaster in lontananza, ma non moltissimi, diciamo, dritto davanti a voi verso la struttura. Ma quindi adesso stiamo marciando noi? Sì, dobbiamo decidere come muoverci perché ci sono dei cloni che ancora non ci hanno visto e potrebbero... Possiamo sparare? Spariamo da morti, sicuro non ci vediamo. Sono un po' lontani. Dobbiamo vendicare e se è rimasto un po' di, non ci arriviamo, di vita, mandiamo Valerio a curarle. No. Andiamo di corsa o cerchiamo di stare un po' accortati? Boh, i leader siete voi. Tiro i leader. Vabbè, nel caso, se volete andare di corsa, mi metto davanti e prendo. Ho una domanda: quanta altezza c'è da qua? Una piattaforma più alta? Le piattaforme più alte sono più alte tipo di un metro, nel senso che comunque sono collegate da ponti e sono tutte quante più o meno allo stesso livello. Cioè con un salto posso andare sopra? Non ci arrivi per colpa della distanza, non per colpa dell'altezza. Cioè, piattaforma, ponte e poi altra piattaforma. Capito? Capito. Ci potresti provare, ma il problema non è il dislivello. Raga, siamo fottuti perché da quello che ho capito non c'è copertura, quindi... Ce ne sono poche. Via, andare. Sì. Quindi corriamo. Ma sì, corriamo. Se tu scusa, aspetta, ma io so se tu hai il force leap. No, non ce l'hai il force leap. Eh? Non ce l'hai il force leap, Andrea. Sì. Un po' più specifico. Salto della forza. Force leap devo avere Nance? Sì. Non ce l'ho ancora. Ok, niente. Cioè, qua serve. Se no dicevo salti in là, ti butto un po' io in là e poi da dietro li scopi. Vabbè, comunque andiamo. Ok, non ancora. La prossima sessione. Sì. Ancora non sei. Quindi provate a correre? Io metto in testa. Uccide leader. Squad leader. Corri, correte, via. Ah, voi, tu e okay, Sala c'avete anche la cosa arancione da squad leader, il drappo arancione, quello. Sparpagliate. Dove? allora, verso il cazzo di cupolone. Che vuol dire? Apposta, andiamo, che usa i suoi vantaggi. Avete, adesso avete due Dark Side e io ho flippato uno di Light Side. E cade il ponte e crepate tutti. Crepate tutti. No, mi vedono i cloni e cominciano a spararvi addosso. Quando vi piace. Peccato. Non preoccupatevi, succede qualcosa. Siamo morti. Non mi faccio tirare di persona. Questa è la difficoltà hard, tipo appena uno viene ferito è morto, poi, perché c'è Valerio con la cura. In cancrena, ferito. È tipo veterano, scusi. Ma non mi faccio ritirare, faccio ritirare iniziativa. Va bene. Teniamo la stessa, essenzialmente tocca a loro, vi sparano e fanno... Fanno schifo. Comunque siete lontani, quindi la cosa buona è che per loro è più difficile colpirvi. Anche per noi. Zitto! Cioè, aspetta, range vuole? C'è più danni se gli tiro il bastone. Ah, no, non posso. Allora, due di voi vengono colpiti. Allora, vedete, praticamente, cinque di questa dozzina di cloni si gira, si mettono tipo a triangolo. Gli altri tipo, non so, 10, non so quanti, continuano a sparare dal lato loro verso altri Stormtrooper, e gli altri li cominciano a sparare addosso mentre correte. Colpiscono, adesso tiro a caso per un attimo di 6 per vedere che... Io avevo pensato alla formazione. Rega, 2 su 6 è una buona strategia comunque. Come, cioè, se si è disposti... No, io avevo pensato alla formazione, però non sono leader, quindi... Bravo, bravo. Se hanno detto correte e basta, mi immagino che siete tutti quanti belli in fila. No, no, io ho detto correte sparpagliati. Sparpagliati, non in fila, Diana. Ah, quindi scusa, non conta che, cioè, diciamo, per come sono messi loro, il fatto che io mi sia messo un po' davanti alla testa della classe, sei più vicino, ma loro sono di lato a voi. Ah, quindi voi li state bypassando. Insomma. Quindi io sono come gli altri, perché loro mi perché li stanno bypassando? Li stanno ancora incontro. Sparatemi! Sarà facile colpirli. No, sì, stiamo nella sezione di struttura. Tattiche. Loro ci sono. Era piano. Contro di loro perché non ho capito niente. Non puoi correre. Avete mai visto, lo space baseball? Cascarono di sotto. Avete mai visto lo space baseball? Il baseball che si gioca a Star Wars. Ci sono le basi che sono le fine dei cose. Voi dovete correre fino alla base. Ah, esatto. Che bello. Io avrei messo Luca davanti a tutti, lo stato correvamo. Subito dietro di lui Sara che è leader. Dietro di lui Valerio che sta per stare. È che loro sparano da laterale, quindi siamo colati lo stesso. Sì, ma io avrei messo io Edoardo e Lade, quindi abbiamo beccati noi. Oh, però il però leader ha detto che no, sono ai lati, sparpagliatevi. Ragazzi, io faccio a caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi becca è questo? 4 e 5. Anche stiamo vedi, alla fine tutto torna. Il karma. Allora, Cristiano, scusate. Luca, vi prendete 6 danni a testa. E se io 6 mi tocco? Col più 2 c'è 6. Tu ti fa un vantaggio. Cioè, io non sono un power player, questa no, Jacopo, questa volta ho fatto una... Ma cioè, niente, ma allora, diciamo che ti si stacca un pezzo d'armatura perché non è l'armatura più ben fatta. Cioè non è più l'armatura. Io invece ho 4 di soc. Che succede? Questo cazzo di nerf è stupido. Ma soc, certo. E il soc si perde? No, i danni che puoi sopportare. Okay. Che assorbi? Ogni volta che devo fare un danno, assorbo questi? Sì, tu fai danno. Ti fanno 4 danni, ho this. Il soc è Bron più. Diga. Sto per rimanere in tema. Prova a dire quanto io con l'armatura di soc. Cioè no, l'armatura... Sì, perché c'ho di base 2, non so... Con l'armatura? Se c'ho con l'armatura di Jacopo di Sock. 4. Ah, io c'ho... 3. Se Sock 3 qua. Più 2, 5. 2, no. 5, 3. È compreso del vestito che c'ho addosso. No, no, perché c'hai... No, tu c'hai 2 di Bron. C'ho 2 di Bron. Quindi hai 4, perché 2 più 2. Ma 3 come ce l'hai? 2 più 1 aveva uno. Comprato un vestito lui aveva però più 1 è perché di base più quindi uno. C'ho 4 adesso. No, non è di base, è il vestito che hai comprato. Aspetta, forse tu c'hai qualche vantaggio. Non lo so, Sarra, com'è? Ma ci sarà scritto? No, allora, se tu hai il vestito, diciamo che non ce l'hai perché hai l'armatura, giusto? Sì. Quindi hai una roba che ti dà 2 di soak. In più il tuo soak è il tuo brawn, quindi tu cos'hai? 2, 4. Non so se hai qualche talento di soak. No, io ho 3 probabilmente perché ho messo l'equipaggiato in floating. 4, ok. Non c'ho l'indumenti sotto l'armatura. Tocca a tutti voi, perché l'altro praticamente vedete che prova a spararvi, ma tipo fa così e gli cade l'arma. Tocca a voi. Ciao, Mago. Quanto è lontana la cosa? La piattaforma centrale. Ci metti almeno 4 manovre ad avvicinarti. Ogni manovra quanto una sarebbe? Puoi spendere 2 di strain per fare 2 manovre in un turno. Se noi facessimo tutti questa cosa, sì. Cioè tutti quanti facessimo questa cosa, stiamo correndo. Correndo forte. Essendo, cioè stiamo camminando in questa direzione rispetto ai nemici, andremo oltre il long di range? Cioè, capito quello che voglio dire? No, più o meno restate nel loro range long. Però al turno successivo, sì. Cioè, al turno dopo potete uscire dal... Ok. Domanda ipotetica, se uno vuole solo correre. Inoltre, con 4 manovre non è che arrivate alla struttura. Riuscite a superare 2 piattaforme e arrivate sulla piattaforma della struttura. Poi dovete fare altro movimento per arrivare dove dovete arrivare. Okay. Ma nella piattaforma davanti a noi non c'è nessuno, cioè dritto da noi. Davanti a voi che dovete fare adesso con lo scatto, è completamente vuota, non c'è niente. È dritto. Solo un'antiera a sinistra distrutta, che però è a sinistra, quindi cioè, non copre. Raga, split pushate sta cazzo di lane. Esatto. Io chiedo... niente. Chiedo in bonito ai leader che cosa dobbiamo fare, se correre o sparare. O correre corri e sparare. Stiamo correndo. Cioè, stiamo già correndo, loro ci sparano, noi stiamo correndo. Continuate a correre. Va bene, continuiamo a correre. Perfetto. Dobbiamo usare strain, quindi. Lo fate tutti quanti? Il dottor strain. Dottor strain. Cioè, se voi magari ci date l'ordine, nel senso dite acceleriamo il passo, continuiamo a mirare verso di là, usiamo dobbiamo essere strain. Corre, esatto, siamo tutti e due di strain. Tutti quanti perdete 2 di strain. No, aspetta, io rimango un po' indietro. Ok. Magari mi sparano a me, invece che a voi. Quindi, meno 2. Meno 2 di strain. Ok. Poi... praticamente che succede, Filippo? Vi devo dare un po' di... C'è per strain? Per tutti meno? Tutti quanti? Tu lo devi togliere. Okay. Se vuoi correre. Vedete che voi praticamente passate alla piattaforma successiva, vedete Salla che vi segue, ma il ponte vi cade, cioè vi si stacca dietro praticamente, e Salla rimane isolato dietro i voli nella piattaforma. Oddio, un flashback! Ma questa è una generalizzazione perché lui sta a Marsiglia, quindi è lontano e quindi è sempre distante. No, semplicemente perché è rimasto dietro. Perché è una citazione alla campagna vecchia. Lui è tipo tipo Tarantino che non sapeva queste scene, Jacopo li fa ricreare. È tipo, no, è più tipo, come si chiama? Hot Fuzz, quando c'è il tizio che salta la staccionata. Esatto, che tutti i film anche tipo esatto. Citazioni ci siamo. Salla, tu in questo momento vedi che puoi girare intorno passando per un'altra piattaforma, ci metti un po' di più, ma ci sono ancora i ponti e ci sono anche delle coperture. Oppure che oggetti ci sono vicino a me? Allora, vicino a te ci sono dei soldati morti, tipo dei cloni e dei stormtrooper morti. Lutto. C'è una gamba di un camminatore, quelli vecchi. È dalla mia parte o dall'altra parte? No, qui dove sei tu? C'è tante quelli vecchi che sopra erano scoperti, come si chiamano? Quelli della guerra dei cloni, vabbè, insomma, molto vecchi. Ho capito. E niente, se tocca a me, sposto quello e mi sembra... Non tocca a te, tocca ai cloni che sparano a te. E non gli fanno danno. Oh merda, vedi praticamente un clone che vabbè ti fissa malamente, un altro clone che è quello di prima che c'aveva l'arma che gli era caduta a terra, che la prova a riprendere e la lancia di nuovo. Proprio giovane. E invece il terzo clone ti colpisce, ti fa 7 danni. Forse volevi dire 2 danni. Ti fa 7 danni, ma 5 di soc. Ma perché c'è 5 di soc? Perché è power play. Ma tu non c'hai Brown, perché c'è 5 di soc? No, l'ho comprata con gli ex iniziali apposta. Come? Non ho capito. Li ho comprati con gli ex iniziali apposta per avere più soc. Vabbè. Vabbè. Vedete il clone che ha sparato a Salla, lo vede che l'ha beccato e fa tipo così e gli cade anche il danno. Beh, geniale. Diciamo che è cominciato a avere sospetto e questi cloni sono un po' fatti male, diciamo. Ah, ok. Li chiamavano il giorno ma male di burro. Che succede amore? Tocca di nuovo. Il telefono è esploso. Ah, è come si Samsung. Dopo che esplosa la mano. Comincio io. Prima che si rompesse il light. Ma prima dell'invasione. No, è la settimana. Ti compensati non aver capito. Cioè, ti compensati non aver capito. Si è rotto prima la macchina, poi il telefono e poi il letto. Cioè, te la tagliamo questa? No, scusa. No, ci sta. Sì, la regia. Il personaggio molto... Okay. Regia. Dopo il letto. Ya, yeah, yeah, dimmi la silhouette di quel cazzo di quella cazzo di gamba. Silhouette 1. Aspetta, no, silhouette 1 è una persona? Sì. Magari, almeno c'è per motivo. Aspetta. Mi sembra la silhouette 2. Che cazzo? Silhouette 2 è tipo il ban, c'è cioè un il ban, hai presente quel cazzo di cose nuove? No, allora sì. Silhouette 1 sono tutte le specie umanoidi e Silhouette 3 è Rancorn. Allora, Silhouette 1 un pochino più grande, però Silhouette 1, sì. Da, da, da, da, da, la sposto per metterla come ponte. Ci sta o è troppo corta? Dai, ci sta. Ci sta. E se non salto, guarda che me frega me. Salta agitando le braccia. Diciamo che non è un ponte sicuro da entrambe le parti. Cioè, è tipo una passerella, sai, quella dei pirati. Per buttarti, ho capito, cioè. A giro, ho capito come va a finire. A giro lo stacco. No, no, no! No, cioè, puoi, puoi farlo. Cioè, non è un ponte che arriva dalla... Cioè, un appoggio da entrambe le parti. Sì, intanto bisogna vedere se riesco a spostarlo. Due bianchi! Mi fa male. Vuoi flippare? E quanti punti abbiamo? 3. No, non flippo, a giro. Vabbè. Vedi Salla che fa tipo e poi rinuncia. Ok. Sbuffa e riesce. Ma voi non state correndo come dei babbuini. Forza. Esiste fallire. Esiste solo no. Se vuoi prendere due stream, Salla, arrivi più o meno dove stanno loro, un po' più... No, no, non li prendo, sto dietro, me ne fuori. E così vedo se loro esplodono. Magari metti che... Per aggirare, cioè... Vabbè, metti che è minato. Si fa la passeggiatina. Fa... Metti che è minato, falli andare avanti. Ma ce la copriamo sparando a quelli. Metti che davanti è minato, falli andare avanti. No. No, cioè... Lo aspettiamo? Lo copriamo sparando a quelli? Lo sentite? Gli spariamo, cioè sarà un cristiano. Ma io, cioè, cristiano lui pure c'è il comlink, no? Cioè lui c'è il comlink, no? Lui c'è il comlink, no? C'è tutti il comlink. Ah, quindi ah, ok. No, perché vabbè, facciamo, ti aspettiamo a usarlo. Davanti avete degli ostacoli o è pulito? State in una piattaforma che è proprio pulitissima, sembra con la cera. E allora... Andate, cioè, distaccatemi e io prendo i danni di quelli che sparano. Ma no, sparano intanto che ti aspettiamo, scusa. No, no, no, andate, io sto un po' dietro e così piglio i danni di quelli che sparano. Va bene. Vabbè, tu alla fine, al posto di fare le manovre per correre, ne facciamo una per correre, una per sparare, così ci, cioè, ci recuperi. È per sparare la... No, voi no. Fareste comunque... Cioè, invece di fare due manovre per arrivare... Sì, ci sta. Basta, non capito. Cioè, invece di fare altre due manovre per arrivare direttamente dove dobbiamo andare, ne facciamo una e intanto proviamo a sparare i tipi. Però io voglio dire una cosa, cioè, riguardo lo sparare i tipi. Il fatto di scappare, secondo me, sarebbe anche un'altra cosa, perché tu hai detto che un po' si sono girati verso di noi, ma c'era un'altra decina che si era girata. Quindi se noi ingaggiamo quelli, sono anche quelli dietro. Sono anche quelli altri dietro. Ah, c'è altra gente, vai, continuate a correre allora. No, però è solo dire... Fai due strenne e fai due manovre per sparare. Cioè, comunque l'azione ce l'hai. Cioè, no, ok, quello sì. Dai, però non voglio spostare tipo segno di string. Sì, una decisione di string. No, questo è il mio spiegato, cioè, vabbè, fai una musichetta di tensione. Undertale, una storia. No, boh, secondo me continuiamo. Io seguo il giorno, sì, esatto. Sono d'accordo con quello che dici tu. Se metti che li ammazziamo, li becchiamo, quegli altri se si girano. Ma questa bella canzone di Shrek 2 quando Shrek deve entrare dentro al castello. Fatto che si allontani anche noi, come facciamo? Cioè, tu c'hai l'arma. Vabbè, c'è una difficoltà in più, però. No, no, se è medio e loro sono long, non li becchi proprio. E poi c'è il laser, fa proprio più. Ma così è così si spegne mentre va. No, una difficoltà in più e basta. Cioè, che sarebbe una difficoltà in più? Cioè, sì, si può arrivarci, però se arriva. Che è il laser dei cinesi? Se può arrivarci, sì, se non ci arriva l'arma, non ci arriva. Come dire, il pugnale è engage, posso usarlo a medium, no. Io tiro. Lo tiro. Come? Il pugno lo posso usare a medium. Esatto. Vabbè, allora andiamo dritto. Correte, maiali. Allora non c'è pericolo. Senza dubbi. Ma dritti di corsa violenta o di dritti corsa un po' più... Cioè, spegniamo gli strain o no, quello vuol dire? No, già abbiamo spegnuto. No, c'è no, cioè, nel senso, adesso andiamo a velocità... Ah, no, vabbè, andiamo... Normale. Quindi posso. Niente strain, volete sparare tizi? Che poi tanto non ci arriviamo. Magari, magari ci provi, dici, ah, non ci arrivo. Giusto per vedere il laser, che sì, l'immagine del laser che ti viene. Puoi spendere comunque due di strain e avere l'azione. Ah no, io sono buono. Cioè, se devo spendere la strain, no, se posso sparare gratis senza spendere. Sì, puoi sparare gratis. Cioè, corre e spara. Puoi sparare, puoi fare un'altra azione, puoi fare un'altra abilità. Vedi, perché lui, tu sei il meccanico, lui è il medico non sa che a distanza non ci arriva e quindi spara. È giusto però. Sì. Ma io ci provo. Cioè, no, ma infatti, ho detto. C'è anche Salla di 7. No, ma quelli stanno in alto, cioè lui sta lì e quelli stanno là, quindi io sparo là. La testa, però. Vabbè, io faccio un facepalm. Mentre vedo che lui ma posso tirare? Tu, no, cioè, non tirare tanto il risultato è che tu spari e vedi che il laser prima che arriva si spegne. Cioè, ma quello si spegne a un certo punto, non fai all'infinito, no? Non siamo infinito, quello lì tuo, sì, quello lì tuo, quanto pare è eccesso. Non sai. Oh, il laser in era il mio primo posto, cioè, la stazione delle gente di Bello. Non è volta, sembra Italia e Russia. Bene, toccano? Tocca a loro? Tutti quanti quindi vi siete spostati? Sì. Al momento siete quasi arrivati al ponte che porta alla, alla cosa, alla cosa centrale, alla struttura centrale. Sentite, allora, vabbè, i Groundtrooper che provano a respararvi e non ce la fanno. No. Tu sei vedete sotto di voi che la terra comincia. Sono il re del mondo! Cioè, vedete, sentite la terra comincia a tirarvi sotto. E i Groundtrooper non vi riescono a colpire perché ormai siete troppo lontani. Cioè, anche loro là si spengono. Bravo. Ah. Non c'è la piena dello spazio. Io chiedo ai leader cosa sta succedendo. La pietra poi passa per crollare. Come fa a crollare? Con il mio volume 3 ma crolla. Nel dubbio. No. Ma questo non solo c'è al massimo per scambiare acqua, Tira acqua. Esatto. Beh, però io da quello che ricordo il meteo di Camino non era più una cosa. Il meteo. Bonaccio. Dove stai andando? No, no. Ah, più o meno è uguale, però col mare invece. Esatto. Oh, B1 contro Jango Fett. Ah, Jango Fett. Chi ha di Mundi che muore? Dai, vabbè, allora. Chi ha di Mundi muore sulle nuvole. Cioè, no, città delle nuvole. No, chi ha di Mundi. Non è Camino. No, ma è Camino. Sì, è stato Camino. Oddio. No, no, mi hai ragione tu. Sì, sì, sì, no, hai ragione tu. Scusami. Io mi ricordo quella scena, però forse mi sbaglio. Vabbè. No, forse hai ragione tu. Lasciateci nei commenti dove fare. No, tanto non essendo live. No, città delle nuvole. Chi ha di morti? Città delle nuvole è quello già di dentro la. Ma è una è morta. L'hanno con la maschera. Hai la figura in mezzo alla giungla. Mm-hmm. Sì, ok, no. Scusi, quartier generale, la missione una volta arrivati lì, qual è? Vedi, quindi siete vivi. Scusa, hai fatto che tremava. Sempre questa ironia, la no, cioè... no, la prima scena sono io che arrivo e Valerio mi fa, ma sei ferito? Io, no, tutto a posto. tutto bene. C'è un buchetto qua. Vabbè, ti dice SR561, dovete raggiungere il contatto che vi aspetterà alla porta principale. Dirigetevi al nord. Andiamo. Cioè, ti risponde con le direttive della missione, cioè della vostra missione. Il contatto è quello lì, tipo che Justin. Sì, lo so, ma lo sai, io voglio far carriera o comunque diventare figo, quindi devo dire sì, avete ragione, siete figli, bravi, ciao. Cavolo, come me. Ok. Quindi devi essere figo, ok. Ma come sono le tambure? Pure io. No, secondo me abbiamo come il resto di me ucciderci perché non c'è. Quindi noi adesso siamo al sicuro? O sta ancora a tremare? Non ho capito. No, la terra vi sta tremando tutti i piedi in questo momento. Ah, anche dentro la zona? No, voi siete andati oltre? Cioè siete andati verso il... la torre centrale. Ah, ok, quindi avete oltrepassato il ponte e state sulla piattaforma della struttura centrale. Ah, quello quel messaggio vi girate, era... dietro vedete il pavimento che si apre ed esce un'altra postazione intera da sotto alla pedana, cioè da dove state sopra quella struttura circolare. E questa cosa antiaerea comincia a uscire l'ombra così e... però antiaerea quindi non ci può più. Infatti grazie, consultatemi quella Sala... direttiva lì era radio, cioè non era una persona a voce che ce l'ha detto, era per radio dall'alto, okay. A te e a Salla, okay, Salla perché... tu riesci ad arrivare alla piattaforma centrale tranquillamente da un'altra piattaforma però. Oh rega, c'era il sentiero. C'era il sentiero. È arrivato dove siamo noi con un altro tragitto. La cosa che vedete è a destra dei clone trooper che cominciano a confluire, sì. Diciamo che sono resi conto che li state per aggirare, cioè loro pensano che li state per aggirare. Dalla piattaforma dove stavano prima vede che cominciano in lontananza a spostarsi mentre sparano a quelli dietro di loro. A destra, a sinistra, dove c'è Salla, e quindi Salla lo vede meglio. Vedete un tizio. Vedete un tizio con un'armatura verde. Che Salla riconosce essere un mandaloriano. Il Green Ranger. L'armatura è esattamente identica a quella di Cone. Ma è Arrow, uccidiamo. È fresco, prima. Signori, ho un problema alla mia piattaforma. C'è un invito alla festa di un imbucato. È la Lega Nord. Ok, a chi tocca? Ci sono quelli cattivi che ci stanno andando a ma non stanno sparando a noi. Però ancora non arriverò verso di voi. A sinistra c'è quello Jetson lì, quello che dovevamo parlare. No, non è lui. Sì, sì. A sinistra? Verso Dallo. Ah, io avevo capito il nord, hai detto. Ah, il mandaloriano è il contatto? Sì, ho fatto un disegno inesplicabile. Graficamente è a nord, cioè sapevo della depressa. No. Ah, ma il mandaloriano è il contatto? Ero già in modalità gli rubo tutto. Ho fatto tipo un batterio lui. Allora, tu chiedi conferma, radio, sì, è il contatto, sì. Ma avvicinato. Perché, rega, ho il contatto qua, muovete il culo. Okay. Ma forse non è stato, siamo forse vicino al batterio. Vicino al batterio. Andiamo, raga, andiamo, picchiamo. Niente, il tizio vi vede arrivare e fa veloci, qualcuno di voi ha una carica? Una carica. Una carica esplosiva, un detonatore. Paolo, cioè, abbiamo? No. Io no. No, però sono meglio. Ingegnere, caccia la carica. Allora mi serve un esperto di computer subito. Io. Allora ti praticamente stacca un coso dalla parete. Vedi che lì vicino c'è tipo una porta e te lo dà. È tipo una specie di datapad collegato a dei fili un po' male. Gli chiedo che devo fare. Niente, devi aprire la porta. Ok, ci penso io. La prossima missione voglio sapere le competenze di tutti, se no andiamo a culo qua. Medicina. No, hai già capito. Per... Tank. Cristiano? Cosa? Io smuggler. Jensola. Allora, che cosa fai di preciso? C'ho le robe tipo Deception, Sibilota, poi Streetwise. Perché mentre cerchi di aprire la porta, capisci subito che non ce la farai. Cioè, ma c'ho due dadi gialli con le armi. Range. Allora, cioè. Non era possibile. Cosa di caratteristiche? Tu hai due. Eh? Qual è la più alta? Cioè? Ah, c'ho 2-3-2-3-2-3. 2-3-2. 3-2-3. 3-2-3. C'è qualcosa che non funziona. Non mi tira questi. 2-3-2-3. Ah, perché devi. Ok. Cioè, no, raga, ma. Forse tanto ce l'ha fatta. Che ora ha più senso. Allora, è successo. Allora, istantaneamente capisci che per accedere devi inserire una password. Il sistema ti dirà, non se, cioè ti dirà se è giusto o sbagliata, ma se è sbagliata ti dirà quali lettere sono giuste, diciamo, della password. Ah, un enigma. Mastermind. Ah, ma non ti insegnano questo quando fai ingegneria. Cioè, perché tu puoi... Puoi capire se la password che hai inserito ha una lettera nel posto giusto o una lettera giusta nel posto sbagliato. O più okay. Lettere. Non ti insegna a giocare a Mastermind. Mastermind. Non ce l'hai? Non lo so, tipo una chiavetta o qualcosa che posso attaccare da per decryptare la password. No, okay. Bomber è... Devi fare tu a mano, va bene. In sostanza, praticamente cosa dovrai fare? Ogni turno metti una password e provi se va. Ma so quanti caratteri hai la password? Sì, sono... 3. 6. Quindi, mentre non questo, ci arrivano alla fine della lezione. Esatto. Bene, quindi, dobbiamo coprirlo. Dovete sperare che Edoardo sia veloce abbastanza da non farlo. Ingegnere. Ciao. Ma senza nessun indizio su quale potrebbe essere. Con l'indovinellino. Poi difendi a me. Comunque, tu avresti provato. È una password che ha senso. OP. Pilota. Tank. Potresti carico computer. Qualcosa. Medicina. Scrivo inutile. Cammino. Questa è la situazione. Ah, non so. Okay. Allora, il primo tentativo è cammino. Sì. Tu sai che due lettere sono nel posto giusto e sono giuste. E ora però a chi tocca, scusami. Scusa, ma lui ha detto che potessi fare qualche tiro. Ora toccherà a chi? A tutti quelli che si sparano. Allora, la sostanza è questa. Tu ogni turno potrai fare una manovra che inserire la password. E un'azione che è... Boh, dimmi tu, spara, prova a provare a... Allora, c'è un'azione. Tipo Marco che va all'ora, cioè gioca. Gioca, fuma, fa cadere sigarette elettroniche. Gioca e parla con Elisa. La tua azione è bestemmiare. Cioè, tipo, che ne so... Oddio, ma se sente il live... Ma magari sì, qualcuno ci credo. Posto, magari, dopo un'ora e venti di live sento. Oh, che allora noi siamo sul cammino, boh, provo a fare una prova di conoscenza. Che è un termine, non so che. Boh. Allora puoi fare un terribile. Lor. O basta. Che hai detto? Ah, è uguale. Alterrim o Lor. Niente. Posso provarci io? Se sai che... Sì. Non lo so, allora non ce l'ho. No, no, no. Cioè, ecco. Tu dici cos'è quella relazione. Minchia, magari non legge, fa paura. Quello, perché c'è intelligenza 4. C'è un intelletto. È per questo un intelletto. Vedi tu. Tu c'hai intelligenza 4? Sì. Io pure. Quindi sta parlando di droide pure ce faccio aperto dai zitto Luca col microfono ambientale sempre 4 ma non è il microfono ambientale ossia un successo e due svantaggi culo a merda Quintus hai fatto un tiro di Uguale. Ma tu sai che sul pianeta Camino vivono i camionani. I camini. I camini. Babbi Natale. Oh, però se ti assomigliate i camini. Che sono quei tizi col collo enorme, altissimi. Sì. I camini. Sai che loro hanno, diciamo, poche cose a cui si sono attaccati. Sono essenzialmente un popolo senza molte emozioni, di norma. Sì. Ma comunque sia, hanno una struttura gerarchica abbastanza importante e loro hanno come leader una persona che loro rispetta molto. Ok. Oh, raga, comunque mi piace il concetto di Jacopo su non ho preparato nulla. Non ho preparato niente. Siamo improvvisati. Primo ministro di Camino. Cavolo, siamo al minuto di Amazon. Perché l'Amazon? Oh, porco cazzo, lo sa! Però allora, non ho detto niente, quindi no, non puoi dirlo. No, allora, io... Ragazzi, cioè, io perché mi sono preparato? No, ma scusa, a parte cosa è questo? Cazzo, non hai imparato niente, comunque. Lo sai così, come... No, stalla, basta. Cioè. Questa è l'unica... Cioè, è un posto. Lama su! Vabbè, qua diamo una... Cioè, un po' netto. Allora, a parte questo... No, io ripetivo questa prima e ultima sessione, poi... Ma one shot... E ne subentro io, siete morti. Allora, tirate... Qua, vabbè, questo turno, ragazzi, l'ho fatto, cioè... No, aspetta, c'è un attimo, esatto. Scherzi a parte, stavo per chiedere alla platea. Ragazzi, devo mettere una password. So che due lettere sono giuste, io ho messo Camino. So che magari potrebbe entrarci con... diciamo la gerarchia di Camino, ma non, io non ho idea di quale. Te lo dico io, il primo ministro di Camino, la Masu. Okay. Sì, aspetta, piano, tu lo sai, ma il tuo PG lo sa? Da, da, da. Il tuo PG effettivamente lo sa? Potrebbe saperlo? No, non lo sa, io non so niente, non conosco niente. Allora, ah, ma quindi lui davvero lo sapeva come persona? Io adesso stavo capendo che ti avessi detto Jacopo. No. Ah, no. Lui lo sa perché c'è il cazzo guardo. Perché mi piace. Un bastardone. Allora, non lo so. Vabbè, allora, no. No, non lo sa, non te l'ho detto. No, vabbè, provo a fare... Cioè... Allora, sappiamo adesso. Cioè... Eh no, cercherà di rovare. Ok. O di scoprire... magari qualche personaggio illustre. Vabbè, posso, scusa, io non so come la situazione, però a sto punto posso provare io con... che differenza c'è tra Lor e Alterrim? Che Lor è un po' generico, Alterrim sono i pianeti dell'Alterrim. Luce esterna. Cioè, nel senso, io so che c'entra, che potrebbe entrarci qualcosa con la gerarchia, cioè qualcosa... anche perché io cammino. Sono una razza appartenente comunque abbastanza nobile, sì. Quindi potrebbe essere che sì, i primi ministri degli altri posti, giusto? Però tu sei uno, cioè, proprio fissurato. Quindi alla fine ci sta, la riconosco, però per sapere, cioè, se io tiro loro, siccome sono già, no, mi conviene farlo, oppure siccome c'entra di meno c'è più difficoltà. Cioè tirare loro invece? La difficoltà è sempre 4. E allora tiro con loro. Che c'è un giallo allora. E invece. Ah, invece di questo? Invece ho termin 104 Bravo. Si è andato un po' per play. Quattro io. Vabbè. Ah, le devo tirare 4 io. Ok, no. Non se lo ricorda proprio. Camuso. Valerio ha flashback della sua infanzia, posso per fumare canna. Evita Coruscant. Che palla. Vabbè, quindi niente. Altri. Voi sentite il sonido. No, semplicemente estraggo il blaster, metto con la schiena a Edoardo per vedere se vicino a qualcuno. Vedete anche quello che voi chiamate Justin Merrill che si sposta e si mette anche lui a difendere la posizione, insomma. Ok. Comunque lui ha sentito questo discorso e fa, provate a vedere se qua in giro c'è qualche camminatore ancora vivo. Magari vi rispondo. La sentivo. E ci allontaniamo, boh, non so in che direzione. Potete andare o verso i tizi che vi arrivano addosso, oppure un altro giro. L'altro giro, sceglierò l'altro giro. No, potete anche riprendere la direzione che hai preso tu, cioè della piattaforma dove sei arrivato tu, e c'è anche un altro... Non ho visto nessun morto cadavere. Diciamo che nella fretta di arrivare per terra non ci si è messo a vedere se qualche camminoano. Tu hai visto che c'era un paio di camminoani scienziati morti, ma non si è messo a vedere. Cioè, no, morti per terra, non hai visto che erano effettivamente morti o morenti o vivi, non sai. E nell'altra c'è anche un'altra piattaforma che va più in là sul villaggio della Penna. Sono da chiedere che sto a fare. Allora, ma intanto mettiti davanti. Secondo giro. Cioè, davanti, sto davanti. No, Luca si è girato, ho messo le spalle. È stato il blast, cioè, come se avessi... Allora, questo non è più l'arma, ok. Due droni ti sparano. No. Allora, vedi un cone che gli spalle l'arma in mano, ma... Minchia, ma sono troppo lesi. Come? Ti fa 6 danni. L'altro che ti fa 6 danni. Sono morto. Ma c'è 18 gol, ma com'è possibile? Come sei di wound? 18. 18. Ah, ma giusto, io ho di più. Cioè, quanto danni? Cioè, io non so. No, 14 sono rimasti di vita. E vedi altri due cloni che tipo smettono di sparare i tizi che stanno dietro di loro e si girano come loro verso di voi. Quindi adesso sono 4 che stanno addosso. Però per adesso tocca a voi. Ma dalla nostra parte invece non arriva nessuno. Come? Dalla nostra parte invece non arriva nessuno. Dall'altro lato non arriva nessuno però, dall'altro giro. E niente, adesso... andiamo di check noi. Anzi, scusami, arriva qualcuno ma sono vestiti come voi. Sono altri trooper. Ehi, avete visto qualche... tizio autoctono morto? Mi fa... No, scusa, no, non siamo fermati a vedere e uno è ancora vivo? Non è che sono morti. Rispondi, allora, soldato, li vedi cazzo di gradi? Fa, no, scusi, signore, tipo, sento super attenti. Fa, sì, signore, il soldato FR-51 ha detto che un camminano gli stava rompendo i cioè, gli stava tenendo lo stivale, signore. Ok, da che parte? E ti indica una piattaforma o quell'altra, dove sono arrivati. Se non avete niente di meglio da fare, di là c'è la mia squadra che sta subendo un grosso attacco, quindi se potete andarli a coprire... Ma gli ordini e vediamo. E vediamo, cazzo. Vedi che questi qui sembrano più ben equipaggiati di te, e sembrano anche più che abbiano più esperienza di te, però i gradi... Ok, ne ammazzo uno e lo lutto. Cioè adesso tocca a noi. Tocca a voi. Tutti, come si dice, gli slot per tutti. Gli slot, okay. Io potrei anche cominciare a sparare, che dite? No, spariamo. Beh, spariamo tutti insieme. Tranne Edoardo, perché... Ok, dai, vai insieme, poi tanto siamo tutti insieme, possiamo sparare tutti. Capo. è difficile, cazzo, è difficile ragionare come se non sapessi. No, vabbè, no, non è tanto quello, più altro è il messaggio quello di Cerri Edoardo, senza che gli altri... No, cioè, è che lui non può giocare. Rega, rimanete vivi fin tanto che noi non troviamo il tizio e glielo chiediamo. Rimanete vivi fino a che io e Cristiano non troviamo il tizio e gli chiediamo il nome del di sì, come si chiama. Supponiamo che cioè, gli chiediamo la password, diciamo. Vai. E quindi speriamo ai tipi. Sì. E quant'era di dati di questi? Due. Sono medium perché. Merda, però tre vantaggi. Sono due no. Insuccessi, giusto? Sì, sono tre vantaggi. E tre vantaggi. Quello ha fallito, vabbè, quello ok. Hai fatto tre vantaggi. E due insuccessi? No. Sì, ma insuccessi. Cosa vuoi? Cosa vuoi fare con tre vantaggi? Cioè, non sei riuscito. Cioè, l'idea. No, abbastanza, cioè, non è poco. Cioè, mi pare che con due puoi dare una mano, un azzurro a chi spara dopo. Cioè? Tipo, al mio tiro per colpire aggiungi il famoso azzurro. Lo aiuti? Tu puoi aggiungerlo anche ora se miri, se non ti sposti. Potresti anche tirarlo e vedere che esce. Un azzurro? Sì. Se usi la mira, come prova. Vabbè, cioè, puoi metterti in copertura nel senso aiuto lui. Il punto è cioè, tu lo devi raccontare come non lo so, sparo, tu dici magari non gli faccio male, però gli becco l'arma oppure gli distruggo la copertura visto che sono tre vantaggi. Ma se c'è cioè, due insuccessi, cioè non lo becco due insuccessi, no, tu no, cioè, tu non lo becchi, danno, tu non lo fai. Okay. Però con i tre vantaggi puoi dire io do, che ne so, Luca, gli do l'opportunità per colpire perché gli faccio un attimo abbassare la guardia, quindi lui tipo si sporge dalla copertura dove sta e quindi Luca lo capisce meglio se spara con i tre. Ah, gli dai un vantaggio a Luca, oppure che ne so, gli faccio esplodere parzialmente la copertura, quindi lui non è più ben coperto, oppure gli tolgo un pezzo d'armatura, gli faccio vedere l'arma. Capito. O una cosa più di flavor, tipo ne so, sta col ponte tra una cosa e l'altra e cadena, cioè non colpisco lui, ma ok, allora vabbè, facciamo così, come avevo detto, la copertura, magari così Luca colpisce la prossima, lo colpisce un blu. Vabbè, la prova spara. Ok. Bombe, capito. Un buon jetpack, 2. Sandesh Tipito. 1. 1 azzurro. Una specie di mission tutorial tipo. Sì, beh, abbastanza. Ranger the light, quindi tirà. Come sparo a uno. Diciamo che visto che andrà mai aiutato, sparo a quello che. Tu hai una specie di. Allora, due successi e come vantaggi, due, o no? Sì, esatto, e zero vantaggi, due successi. Ah, sì, giusto. Vai, quindi io faccio 7 danni. Ma i danni, ma che cosa devi fare? Sono i danni dell'arma più i numeri dei successi totali meno uno. Volta uno. Quindi fai 7 danni, vedi un clone che viene colpito e cade a terra, ed è quello che stava praticamente più esterno di tutti gli altri nelle coperture che lui aveva fatto sporgere per carterra. Ok, perfetto. E, vede altri tre cloni che sono ancora lì dietro le coperture pronti a vabbè, lui però sta facendo, loro non ci stanno. No, però aspetta, ma se qui stanno sotto la copertura non ci vede il nero. No, perché quello era. Cioè, non era coperto, insomma. È proprio aggiunto blu e Andrea. Perché l'aveva fatto tipo sbilanciare. Ok, vabbè, ok, vabbè. Ci sta. Vabbè, erano pure tre vantaggi. Vabbè, diciamo. Bella lì. Io sparo un altro dei due tizi. Dei tre tizi. Lui deve lanciare il nero per queste coperte. Perché loro stanno proprio questi. Sì, ma non colpirò mai. Ah no, io potevo tirare un altro. Però puoi mirare. Io potevo tirare un altro per miro. Anzi no, posso metterlo in copertura. Che vuol dire? Trovi un posto lì vicino che c'ha tipo una scatola o un muro. Copertura. O anche dietro Luca. No, una bella copertura. Però che non comporti. Ti ho buttato il giurato. C'ho due vantaggi e un insuccesso. Un fallimento. Fallimento. Non te lo. Quindi non lo becca, però c'è. E. Niente, mi pare che poi ti togli la copertura, cioè non puoi dare blocco a qualcuno, cioè non era tu che posso dare un blocco per vantaggio? Sì, per dare il blu ma non togli il nero, quindi va bene, sì. Che niente, va bene. E che il successo che comporta? Il successo comporta che non ci capisci, ma non mi fai danno. No, non posso. E noi andiamo avanti. Dai, ma... cioè... il colpo, tipo, lo spavento. Okay. E lui fa, ma non me l'aspettavo, un nemico che mi spara addosso. Sto blu ma chi lo dà? Ah, c'è dell'altro tipo. C'è Jester. Jester, dove si Jester in verità. Un nostro che spara. Ah, lo può dare prossimo turno. Comunque, io e Cristiano andiamo avanti. Come salvo? Io e Cristiano andiamo avanti. Se vediamo qualcuno, Cristiano vai a interrogare. Sì. Ma tu che fai? Io non lo so. Io provo a chiedere al tizio da lì davanti, che mi ha già servito, esatto, a lui, se può aiutarmi, cioè nel senso se conosce, cioè gli spiego proprio come funziona, cioè gli dico, è una password di 6 caratteri, ho scritto Camino, sì. Dovete l'hanno giusto. Sì, lui l'ha sentito comunque. Ok, gli chiedo se lui conosce, cioè se può darmi appunto una mano. Se conosce qualcosa di Camino del cui io deve essere a conoscenza per magari provare a capire. Ma tu hai già fatto un tiro di loro, sì. Qualcosa? Cioè, appunto, ho capito che potrebbe interessarci qualcosa con la gerarchia, con diciamo qualcosa che si riferisce proprio a Camino. Sì. Cioè, da lui se ne sa qualcosa, non ne sa niente, però spara. Ma provi a mettere una password o non ci provi neanche? Prima chiedo a lui. Ah, lui ci pensa su. Prova a ricordarsi. E ti dice, no, non mi viene in mente nessun nome notevole. Cioè non gli chiedo proprio, cioè una persona, non solo di persone, anche di qualsiasi organi governativi, magari che cazzo ne so, cioè in generale. Ma te devo contare. Devo contare lettere, prego. Jacopo, quante campagne sei fatto? Ma sparaci Lamino. Potessi provare questo nome che forse per loro ha qualche importanza. Prova Obi-Wan. Ok. E faccio come mi dice, prova Obi-Wan. Tu inserisci Obi-Wan e il macchinario ti risponde. Cioè, due lettere sembra giuste. No, sbagliato. Ti dice che una lettera è giusta, ma nel posto sbagliato. Infatti, si vede, fanno anche visto che Obi-Wan. Ragazzi, questa è tipo l'esame finale di roleplay. Ah, l'hai scritto proprio in inglese. Sì, okay. Prima c'avevi due. Già avevi due prime giuste? Sì. Camino. Sì. Praticamente hai indovinato. Obi-Wan, quindi non ci siamo. Sì, poi vedi un attimo che si abbuia e ti dice no, forse ho capito. Ma è troppo tardi. No. Te lo dirò dopo questo momento di suspense. No, ti dice... Il blaster lo ammazza. Prova l'Amazon. Perché ha capito? Adesso la porta. La porta si apre. Bravo! La neve. Beh, ragazzi, siamo andati a fare un giro del cazzo così. Ma Cristiano doveva fare un giro, sì. Esatto. Diretto... Vabbè, lui può contattare con il giudice. Tornate! La radio sveglia! La vita bella di Pegelli com'era? Pegelli. niente, quindi a chi tocca? Intanto possiamo avvertirli, sì, potete avvertirli, tecnicamente tocca ai cloni, però vabbè, dai, avvertirli. Ok, abbiamo aperto la porta, tornate più presto possibile. Torniamo. Oh, e quegli avventori che avevano detto di venire, sappiamo che... Ancora ci sono i Druber. Adesso, un supporto, tocca a loro. Vedo quelli sgozzano a dire. Tocca ai cloni che sparano... Ah, quindi lui non ha sparato, però. Il tipo. Pianeta. Lui ancora no. Stava... meditando. Dialogando con Elo, meditando. Non ha avuto tempo, ha fatto tipo un miliardo di cose mentali. Spara per prima. Allora, quelli che loro vedono, che sono diciamo all'aria aperta, praticamente sono Luca, che sta di Edoardo, Andrea, questo è a posto. Io sono aperto. Colpiscono Luca con Andrea. Beh, con questa idea geniale non ci spara nessuno. Cristiano. Allora, uno colpisce Andrea, fa 7 danni, no, 6 danni, ti fa 6 danni. Quindi devo togliere sotto, che è 4, quindi 2, giusto? Sì. Uno colpisce Luca, non ti fa male, ma ti fa prendere, cioè ti fa sbilanciare e riveli, cioè ti togli. Scopre, no. Esatto. Dottor, curami. Tocca di nuovo a voi, vedete che questo è come la mascherina al giorno. Che medico del cazzo. tra l'altro siamo delle merde, perché abbiamo commesso due volte lo stesso errore, c'è la seconda campagna in cui lui cura. Siamo matochisti, che lo lasciamo fare. Quindi tocca noi, entriamo. Sì, vedete che arriva Metizzi, quindi non sarai con il club. Ok, magari cioè, iniziamo a ucciderli o scappo, entriamo dentro. Se finiamo a ucciderli, hai più esperienza. No, comunque, cioè, ha senso se loro li hanno ingaggiati. Potremmo entrare a fare la cosa, non so. Entra a fare che? Cioè entrare nell'edificio a fare quello che dobbiamo fare. No, ma intanto cosa dobbiamo fare? Ci copriamo. Quanti sono rimasti, credo? Una decina. Ma come? Cioè, due sono girati verso di voi. Gli altri sono girati ancora adesso, altri sono trooper che non vedete dall'altra parte. Ok. Ma chiedi intanto la missione all'interno. Ah, chi? Ah, cosa? Scusami? A contatto. Salla dice... non ho capito detto, però. Che ho detto cosa? Chiedi al contatto che cosa dobbiamo fare dentro. Ma giustamente lui lo sa. Niente, ok, quindi dice, cioè lui comincia a entrare, cioè nel senso entra, cioè non si caga tanto. Si gira anche qua, ciao, cioè. Devo finire una cosa. Scusa? Devo finire una cosa. E muore. La mia vita, le porte si aprono e vedi un corridoio, sì. Con un ascensore alla fine, cioè tipo un corridoio che è, non so come scriverlo, cioè un corridoio fatto tutto quanto di vetro, un cilindro, e alla fine c'è un altro cilindro messo così, cioè che è l'ascensore. Tu vedi solamente la luce dell'ascensore e intorno al coso di vetro non c'è, tutto buio. Cioè lui quindi entra, ci dice devo finire una cosa e se ne va verso l'ascensore. Cazzo, seguiamo. Ma io gli chiedo, ma noi, cioè, ti seguiamo? Masticato. Hai bisogno di aiuto? Per il momento non serve, ma venite, potrebbero cambiare gli ordini. Mi dice insomma di seguirlo. Ok, no. Magari vai di lì. Non so, aspettiamo un attimo che sarà qui, se non ritorno intanto. O se ma gli ordini di chi? Che cazzo di grado ha questo? Ma chi se lo incula? Chiama il quartier generale. Sappiamo? No, lo sappiamo. Non sappiamo niente di lui. Usatore. Cioè, nel senso, quello che tu sai, lo sai così, cioè... primo, cioè come si dice? Per sentito di. Non è così famoso. Per quanto mi conosci su stronzo. Per te non è famosissimo, cioè per te non è una figura che riconosce subito. Qualcuno di me l'ha riconosciuto invece? Dobbiamo continuare, ho capito. Perché io quando abbiamo allora, ne hai parlato mi sono un attimo perso. Allora, Cristiano. Cristiano qualcosa si ricorda. Ma non è lì. Cioè, tu ti ricordi che nei tuoi lavori come smuggler, nei pochi lavori come smuggler, avevi sentito parlare di questo cacciatore d'Italia famoso. Cioè, famoso come cacciatore d'Italia, nel senso, abbastanza giovane, che a quanto pare stava lavorando un po' troppo per l'impero. Cioè, nel senso, sembrava stesse ormai diventando uno scagnozzo dell'impero, di Darth Vader. Ma a te non sembra che si chiami così. Cioè, l'ultima volta che hai sentito parlare di un mandaloriano con l'armatura verde, con un jetpack, bla bla bla, si chiama Boba Fett. Esatto. Non Justin Brill. Sbobba Fett. Io tipo c'ho Streetwise per riconoscere... Mi pare fosse stato per riconoscere delle cose criminali che magari non sto facendo. Sì. Però siamo tornati? In sala? Così powerplay. Potete usare... Sì, potete usare... No, sì, essendo... Però, cioè, per il fatto che sto per strada... Potete usare i vostri slot, sì. Se volete agire per primi, sì. Ma anzi, slot di turno. Sì, io sono mamma, ti ricordi dove te l'ho scritto? No, io ho fatto tutti i situazioni, ma mi ricordo per fare. No. No, aspetta, se tu... Forse non so. Tira. No. Due di difficoltà. Difficoltà viola? Sì. No, secondo me... Sì. Buono, male. Bella madò. No, non è possibile. Un vantaggio. Sì, no, un vantaggio, sì. Un vantaggio. Niente. Mi ha detto buon tiro. Niente, ricordi un cazzo, ma un vantaggio è che... Magari riconosco qualche particolare su... Cioè, tu cosa volevi fare con questo tiro? Che cosa volevi capire? Se era davvero Boba Fett, cosa? Non lo capisci, pensi che magari o è qualcuno che sta cercando di far passare per lui, o è lui che usa un nome falso. Però... Vantaggio, magari posso ricordarmi... Ti ricordi che le origini di Boba Fett sono misteriose? Cioè lui indossa l'armatura mandaloriana, ma non si capisce bene, insomma, chi... dove venga, chi sia. Cioè nessuno, tipo nessuno l'ha mai visto in faccia. Nessuno. Ma tu, cioè tu hai sentito che non sa neanche se c'ha la faccia, insomma, come il genere. Lo chiamano testa a secchio. Testa a secchio. O secchio testa. Quindi, niente, lui sono tornato allora. O no? Non ho capito. Sì. Sei tornato? Allora. Sì. Fare. Dai, andiamo dietro a questo, su. Ah, ci chiamo sono servizio. Entriamo tutti, io aspetto magari che entrino tutti, poi entro per l'ultimo. Con la schiena e do verso l'interno. Vedete i tizi che hanno incontrato la palla, che lo salutano, e poi si girano con i Johnson e i cloni. Ah! Come? Il bello è di questo. Niente, voi state camminando verso l'ascensore con molta calma e le porte vi si chiudono dietro, sentite rumori di blaster, urla, eccetera. Mentre camminate si accendono le luci e vedete un enorme hangar tipo sotto di voi. Vedete tipo uno strato di acqua, ma sotto riuscite già a vedere una cosa illuminatissima, tipo delle capsule, delle cose strane, un enorme spazio di qua sotto l'acqua. Mentre camminate, Boba Fett vi fa... Justin Merrill... Aspetta! Quello là vi fa... sexy lady! Il tizio verde vi fa... I miei ordini... sono di prendere la provetta e riportarla allo stato. Bella Bobby, è il tuo sperma. Lo dici davvero? No, perché non so che... No, lo darò in affitto. Per il momento. Voi entrate nel coso, nell'ascensore, e cominciate a scendere. Tutti e sette. Eh? Tutti e sette. Sì, sì, quella è la portata. Scusa, posso fare una bella prova, tipo... vorrei tipo capire più o meno di che tipo si tratta, di che... Che tipo di attrezzatura ha sto tipo? Cioè, se è normale che lui abbia questo tipo di attrezzatura nell'impero? No, oppure... non è normale. Non abbia visto nulla del genere nell'impero, insomma. Ok, vabbè. Hai visto magari qualche soldato che ha un jetpack, ma non si usa. Ti considera che si è arruolato da tipo 3 giorni. Sei sempre lì, esatto. Come? Considera che sei stato arruolato da tipo 3 giorni, per cui non è... No, vabbè, però... Perché io sono un meccanico anche prima, cioè. Ah, pure. Cool. Dici che ti sembra una scelta curiosa mettere un razzo vicino al jetpack come meccanico, lo dici. Okay. Mi sembra un po' pericoloso mettere un razzo. Come il razzo? Sì, no. Cioè, vedi che c'è un razzo da... Dipende, in Toy Story c'è, ma nessuno ha detto niente. Cioè, ma dobbiamo ignorare che questa cosa è uguale al Boba Fett del che ci immaginiamo e per chi conosciamo. No, dobbiamo ignorare. Conosciamo fuori a Jobs. È come la Masula. La Masula. La Masula. Cioè, incredibile, io gli darei un punto qualcosa. Lo direte voi. Esatto. Dagli un punto in fronte. Esatto. Allora, Filippo. Ecco la... Guarda, voi non lo usate, che cazzo sono stato io? Ci dobbiamo, ci dai dei grandi aiuti, e che poi finisce. Sì. Mentre state entrando nell'ascensore, la radio di Salla e di Andrea si sente una trasmissione che poi si cioè un po' intermittente, tipo distrugge. Minchia, non ha messo la fibra manco qua. Paolo e Andrea sentono questo. Distruggere. Vede Meryl, Justin Meryl che vi guarda, cerca di capire. Ma che si chiama Justin Bieber? Justin Bieber. Justin Bieber che si guarda un attimo intorno, vi, cioè, non capite se vi sto assalando perché c'ha un casco. Però, insomma, come ha fatto questo casco? Tipo T. Ah. Vabbè. In questo caso la tua cioè puoi immaginarlo come. E stai scendendo nell'ascensore. Niente. Ok. Non vuole intonare. Ma cos'è un nazista? Esatto. Non è vero. Sì, mentore. Non ho capito che cosa hanno detto le trasmissioni. Distruggere, uccidere, ma... Cioè, tu sei solo distrugge, tipo, cioè, non si è capito bene. Poi... Dobbiamo ammazzare... Però tra di voi vi sentite ancora nel comic. Ok, amico verde, che cosa dovresti fare tu qua sotto? Recuperare la provetta e scappare. La provetta di cosa? Le risposte sono limitate. Quindi, la provetta è bianca. È bianca e si beve. Di recuperare la provetta di DNA di un certo Jango Fett e distruggere l'impianto di clonazione. Ah, distruggere, ok. Adesso ce l'abbiamo anche noi. Che bello. Nessun sospetto. E, quindi scusami, lui non è graduato? No, ma capisci, in questa particolare situazione è più in alto di te come piano, cioè per questa missione, non nell'impero in generale. Poi, visto che io sono su, mi sento super figo e gli faccio: ehi tizio, fai fare tutto a noi, stai in disparte, fai fare i professionisti. No, invece vedi tipo che ti si mette davanti, tipo così, tipo i pettorali, così, non credo che invece pettoralato, il pettoralato che cos'ha tipo di armi? Vedi che al lato destro c'ha un blaster, la pistola scusa, al lato sinistro c'ha un laser grosso, lanciarsi sulla schiena e basta. Chi è che lancia fiamme? Giambi. No, ce l'ha pure lui. Ah, è vero, però non vedi. Però cioè, ce l'ha non sulla... vedi che è un lanciafiamme. Ce l'ha sul pozzo. Per il momento non li lutterei, però... Vabbè, non so. Vabbè, magari cioè... per fare esplodere. Per sbaglio girando esatto tutto il parlamento vuoi volare il jetpack? Mi consiglio di attaccare il jetpack a lanciafiamme e io faccio il gesto a Andrea di tenerlo d'occhio tipo solo che siamo tipo a un metro per cui lui vede io lo faccio sugli gli occhi tiro l'occhio. Io chiedo sia il leader che al tipo ma per distruggere questa struttura ci servirà dell'esplosivo. La smetti di chiamarmi leader, al massimo mi puoi chiamare generalissimo. Cosa? Osservazione, ma noi non abbiamo anche i vari comandante supremo. Torna tutto. Voi sei... non avete esplosivo. Voi sei. E se manomettiamo i laser in modo che esplodano? Io da voi... non so posso. Ma lui non c'ha... questo qua non c'ha i razzi qua di... Vuoi tu un porto d'armi? Ma scusa, esplode, ma quella è enorme la struttura, mica, mica da bomba carta dei... Non si può fare così, di, eh? Di Caserta, possiamo usare, cioè... Tutte osservazioni ottime. Facciamo esplodere quello che c'ha addosso questo signor... No, no, no, stai, aspetta, Dico, Ficcio, ma io... se stai qua. Parlando siete anche lui, Per il senso, adesso quello che succede è fuori script. Ok. Vabbè, sì, allora, ma leso, se parliamo tra di noi, sente anche lui. Boba Fett contro la struttura, prende il grilletto del suo razzo... Ha fatto così, però io c'è cioè, senso... lanciare con Jeff con lui è un'osservazione a tutto questo. È messo sì, ma la deve distruggere. No, ma visto che lui, cioè la sua missione è quella, chiama lui magari. Nel senso, no, lui, la nostra è oltretutto... distruggere. Si capiva distruggere. Ho un'osservazione da farvi: se voi parlate tra di voi, lui sente perché siamo insieme a lui. Quindi smettete di parlare. Capire insieme cosa fare. Parla. Tu, mister, porto d'armi? Ah, tu guardi a me perché se vanno già sei meglio. Sì. Sì, no. Mister, porto d'armi? Sì. Con cosa fai esplodere la roba? Ci stavo pensando, potremmo... mi avevano detto che sarebbero arrivati dei stormtrooper con delle cariche esplosive, mi sa che sono persi per strada. Non hanno perso la vita. Minimo sono quelli che Sala ha mandato a sparare. Intanto c'è sopra uno che fa: signore, con queste cariche. Perché la porta si è chiusa? Ah, forse è per la porta. Ci viene un'esplosione, la porta che tipo si sfonda. In questo momento l'ascensore sta tipo nella parte dell'acqua. E Justin Will dice: ma potremmo o usare il mio razzo per scaricare una, diciamo, reazione a catena, però per sapere dove farlo iniziare. Cioè, nel senso, dovremmo prima capire dove va puntato, o magari c'è qualche esplosivo qui sotto che è rimasto dai tempi della Repubblica. Ma cosa? Cioè, ma non abbiamo le obbligazioni? Non abbiamo? Non possiamo usare dei puntini luce per che raga, scusate, non possiamo usare uno dei puntini per farci una cosa in nostro favore. O certo, sarebbero o certo, tanto dal nostro assegno. Che pugni? Meta power me. No, per voi è assoluto, vediamo se non si può vedere o percezione se c'è qualcosa da far esplodere, cioè se c'è qualche cosa sotto, o se si riesce a capire cosa si può far esplodere per far salvare proprio tutto quanto. Cioè, magari sì, ok, mentre scendi con l'ascensore puoi provare, sì. Puoi battere. E che devo dire? Percezione o... Intanto chiedo lui, prima, probabilmente sappiamo dove andare a cercare. Io proverei con noleggio. Noleggio? Cocchezze noleggio. Noleggio. Ho conoscenza di... voglio morire, cazzo. No, non legge. No, è più qualcosa tipo perception. Mechanics. Le meccaniche. Le meccaniche. È tipo, non so come dirlo, biologia, scienza. Cioè, biologia, allora xenologi. Medicina. Cos'è la medicina? Sì. Basta che devi cercare? devi cercare di capire cosa vuoi cercare di capire. Scusa. Come far esplodere tutto? Ah, no, no, no, no, no, cioè, usa medicina per far capire come esplodere. No, ma posso, cioè, posso flippare una cosa? Vai. Allora, diciamo un flip, un bel flip, cioè, no, per no, cioè nel senso che vicino a dove sono coltivati i cloni c'è anche un bel deposito di armi che poi useranno quando c'è anche un bel deposito di armi che i cloni poi usano per essere distratti. Non lo so, cioè sta proprio lì vicino, bello con le frecce. Così. Qui prendete le vostre armi che non agitare. Pieno di bombe. Vabbè, non così, così, però. È ragionevole, mi sembra ragionevole come cosa, ma non è proprio lì. Cioè, nel senso, se questa è la sezione dove ci sono tipo le camere, come si chiamano? Sì. Da incubazione, sì, non è che qui c'è la barberia, sta un altro coso dove c'è un addestramento roba. Ok, quindi se scoppia non fai. No, lui fa proprio. Beh, raga, easy, sono due robe, dividiamoci. Dividiamoci, la saggia scelta. L'ingegnere va con due a piazzare le cariche, tra virgolette. E per carica intendo il cadavere di questo qua che ho di fronte, visto non mi fido di lui. Mi sto rendendo. E gli altri vanno a prendere il suo, cioè il DNA del tizio e lo portiamo al campo base. Ma quindi qual è il piano? Va bene, io vado alla ricerca con altri due del magazzino di bombe. E gli altri vanno con Giacomo, coso, Justin. Io vado con Justin. Sì, però Justin Bieber. Starship Troopers sgancia qualcosa di grosso per aiutare i nostri amici. Qualcosa di grosso? Sì, tipo, non so, se hai delle bombe a mano è il momento di tirarle fuori. Mi dà una granata. Oh, grazie. Cos'è questa mail? sto sì, coso lì. Faceva la granata di base? 10? Poco. Tipo 6 danni. Tipo, una volta c'hai, cioè, tipo, è un combattimento, era tipo tutti illesi, ha tirato una granata, ci ha quasi massacrato. Tipo. A me sembra 10, ma posso mettere 6, 10 e poi invece era 8. O 10 o 8, però poi c'era 5 a quell'intorno. Sì, in generale. Stai calmo. La granata fa 8 danni. Però magari ci ha dato un detonatore termico. No. E quanto fa quelli vicino? 5 qua. Mi pare 6, ma non sono sicuro. Ah, 6, cazzo. Io non... Oh, io ero già quasi scoppiati. Sì, quelli engaged fa 6 danni. Allora, vi darò una granata. Non so, la dà a Sala. Come a Sala? Io vengo con te, babbuino. Vabbè, tu l'hai chiesto a te. Va bene, la do a chi va con l'ingegnere? Io. No, sì, vabbè, ok, la do al ciccione, all'ardoso. Non mangiartela. Fare il gioco lieve. Il tuo tiro lo puoi fare, non so, io Perception. Ma è una granata, non è usarla così dalla mente. No, il mio non è una cosa così divertente, ho fatto un personaggio da vieni. Vieni, bravo, e non mangiarla. Cioè, non è che in guerra tu... Di un po' sì, cioè non è che tu in guerra come specializzazione fai demolizione di strutture, cioè ci sta, però dai, cosa va bene? Sta cercando di min-maxare anche Valerio. Minchia, abbiamo proprio raggiunto. Oh, Valerio sta. No, scusa, ciao, scusa, tolgo qualcosa. Però ti ho detto difficoltà. Come? Non devi più. Aspetta, però devo un altro blu. Adesso ho fatto 4 successi. È verde. 4 successi? 6 successi. 6 successi. Hai vinto. Continuiamo? Sì. 5 successi. E una madonna. 5 successi e 2 svantaggi. No. Sì, uno svantaggio. Dov'è il vantaggio? No, è il giallo. No, io te lo do. No, ok. 2 svantaggi. Quindi 6... Allora, lo svantaggio è che Allora, non sai esattamente dove colpire, ma tu sai che scoppiando abbastanza in alto e abbastanza centralmente, la piattaforma che contiene di... Okay. No, ho fatto tutta la macchinetta. No, il tasto l'ho sbagliato. Voglio morire. Metterò il caffè in bocca così aspetto. Ormai ha i cannelli. Aspetta, sento che colpendo abbastanza in alto, abbastanza centralmente, la piattaforma. Quella che c'ha i cosi, come si chiamano? Le cose di incubazione, insomma, le capsule di incubazione. Le capsule. Quelle piattaforme si staccano e cominciano a cadere una sull'altra e ogni colonna si può distruggere semplicemente colpendo quella più in alto bene. Ok. Quindi come ha detto lui, lo dico a tutti. Mm-hmm. Però non sa come. Però non sa bene dove né come. Sono un medico d'altronde. Già hai capito, scusa, sono un medico, lo vedo cos'è quella roba. Cioè cosa serve... Per fare i cloni. Scusa, ma se scusa, non ma la, le colonne oggi quando ci sono colonna, roba, cioè tipo dei rami, no, dei rami. Magari si possono programmare, cioè, tutti ritardati. È come se fossero tutti i dischi messi in questa colonna. Facciamo quasi una scala, cioè sono un po' messi a caso, però aggiungiamo che colma questa colonna. Cioè il cammino si usa da quelli, cioè quell'impianto di clonazione che devi distruggere è fatto così sotto, cioè. E quante sono tipo le colonne? Ma saranno 5-6. Ah vabbè, è fatta. Abbiamo una granata sopra sul top, cioè sopra la colonna a posto. Una granata. Però prima dobbiamo prendere sto. Ah, quindi la colonna proprio, poi giusto. La butti sopra e poi la casca. Sotto. Ma l'hai detto che deve andare a cascata, cioè devi... A cascata? È più facile. C'è lì la sua teoria. La mia teoria, puoi sentirlo pure, no, sono solo me. Che comunque questo sta scendendo e lui dall'alto vede queste colonne belle grosse. Diciamo che colpendo la piattaforma giusta in alto basta un esplosivo grosso e cominciano a cadere tutte. Vabbè, allora non serve dividerci, andiamo a prendere il DNA e l'esplosivo. E esplodiamo tutto. Eh sì, dai. Vabbè. Boom, baby. Boom. Quindi vado tutti insieme a prendere il DNA. Sì. Io voglio le bombe. Anche se sta così fa un po' schifo, però vabbè. Ah, bomba. Un po' di Cristo. Allora, okay. Perché, vabbè, arrivate alla base della struttura, l'ascensore, uscite e vedete, insomma, che è stupido, cioè già Jasmine punta la porta in fondo alla stanza, e che si apre senza, cioè, particolari codici, così, ed entra. Seguite, non so, cioè, sì, seguo. Sì, diciamo che io sono un po' sorpreso dal fatto che lui sappia dove sta andando, però sì, okay. Sì, appunto, esatto. Seguo. Lui sembra sapere, esattamente dove andare. Forse perché c'è vissuto. E lui entra lì dentro, entrate anche voi, vedete, praticamente è una stanza in realtà molto molto piccola, cioè rispetto a fuori che era una cosa enorme, un hangar enorme. Che è tipo un uovo, cioè all'interno di un uovo, c'è una stanza ovale dentro. Al centro c'è tipo un cilindro con un buco. Distanza? Distanza? Dalla porta, ma 5 metri, più o meno. Iniziativa, lutto. Cosa? Iniziativa, lutto. Lutto al cilindro. Ok. Tirate. Non ti aspettavi. Non ho capito. Vabbè, ma se gli altri non vogliono lottare, perché devo dire l'iniziativa? No, sono io che voglio prenderla prima del tizio. Ah, ok. Allora vai, tira l'iniziativa. Non ho capito che si. Ma che cosa? Quando Sala sta cercando di raggiungere il cilindro. Devo prima tirare del... Vigilance o cool? Tu devi tirare quello che ti pare. Grande, devi... queste erano le esatte parole che aspettavo. Ma il giro dove ci sta il DNA? Allora sono 3 successi e 3 5 vantaggi. Cosa, scusa? 3 successi e 5 vantaggi. Hai avuto un culo della Madonna e riesci a prenderlo di sorpresa. Sì, ok, la grabbo. No, tu praticamente... No, fammi tirare però. Tu praticamente lo scavalchi. Cioè tu lo... No, perché fai? Non capisco. Io sono stronzo, lui va avanti e io con la forza la prendo. Ah. Ah. Un nero! Un nero? Ah, provi a dirmi come lo fai, perché la provetta è dentro il cilindro, cioè tu vedi questo cilindro che c'ha diversi slot e solo uno degli slot è pieno, non c'ha questa provetta. La strappo, mi fai un tiro di discipline. Tanto è silhouette 0, no? Sì. Posso usare move per fare tipo un tiro per colpire sul... Come mi fai fare un tiro di discipline e poi easy. Difficoltà 3. Solo 3? Ma no, guarda. Vuoi ripensarci? Fai poco lo stronzo che mo ce ne sta per te. Vedi, Sala, cosa tu dovresti essere privo di sentimenti. Allora, sono 2 successi e basta. 2 successi. La provetta, vedi che normalmente dovrebbe scendere e uscire dal buco che sta lì nel cilindro, invece sfonda il vetro e va verso Salla. E vedi tipo già Samir che tipo fa così, cioè in momenti lo becca e lo tramortisce, e Salla la grabba. Mica già okay. Buca, possiamo forza. Andare, rega. Vedi Justin Hill che ti punta la pistola addosso e fa dammela subito. Tu e quale esercito? No, vabbè, la riportiamo insieme, scusa, stiamo dalla stessa parte. Dopo ho detto dammela subito. Dai, easy, andiamo a fare il resto del lavoro. E faccio per andarmene. Cosa tiro? Discipline. No, scusa, cosa che si fa per fear? Cosa che si tira per fear? Discipline. Ok, tira discipline. Difficoltà? 4. Vuoi ripensarci? Vai. Porca puttana, mi manca un dado. Allora, ho fatto 2, un vantaggio. Ok. Ma? Tu improvvisamente senti la paura che ti piace, nel senso tu normalmente riesci a usarla questa paura, diciamo, nella forza dall'oscuro, ma in questa circostanza ti fa riconsiderare la tua posizione riguardo la provetta, diciamo. Ti fa girare. Allora, ti fa sentire paura. Mi volto verso gli altri e faccio: cosa facciamo? Ci fidiamo di questo o eseguiamo gli ordini e vediamo cosa ne dice il centro di comando? Leader 2. Beh, in realtà noi non sappiamo quali sono i nostri ordini, stiamo seguendo le sue istruzioni, quindi appunto, quindi non ho capito perché la vuole lui e non possiamo portarla noi. Distruggiamo la provetta come volete. Ah, io mi sposto un attimo e la do in mano a Andrea. Cioè, cosa ti cambia se la portiamo noi o la porti tu? Non mi fido di voi. Vai, fai sto fight così moriamo tutti la prima sessione. E perché non dovremmo fidarci di un cacciatore di Daniel, quello che non lo conosciamo? Raga, siamo fottuti perché lui non può morire, non avete capito? Perché io so le mie... Ah, oddio, è come una puntata del Dottor Who in cui non puoi... Questo è Boba Fett e lui non può morire. Se siamo fottuti. Ma se è Boba Fett... Ma magari è un cretino che avrei, che ha fregato l'armatura a Boba Fett, però in quel caso vuol dire che l'ha ammazzato. Sì, ma Boba Fett è tipo, ma Boba Fett tipo Joker, può anche morire, però è l'idea di Boba Fett che sì. No, ma scusate, Boba Fett non muore dopo, quindi abbiamo, siamo fottuti. Sì, ma non sai che faccia ci sia dietro quella cosa. Potrebbe essere un altro Boba Fett che muore dopo. Dai, spariamo, su, è chiaro. Vabbè, vedi Boba Fett che cioè, infila un po' della pistola. Detto Boba Fett. vedi il tizio che riquadra la pistola e, vabbè, Justin Merrill, chiunque sia. E, vabbè. Abbiamo super cazzolato il master. Mi fiderò di voi. E fa per uscire, cioè, tipo... ti cammina vicino e tira di vigilance. Chi strappa sicuramente la promessa di vigilance è easy. Ho della difficoltà 2. Vabbè, ma dai, mi fai fare sti tiri che neanche facevo fare io a Oddi, ste cose. Sono 3 vantaggi, no, 3 successi e 1 svantaggio. Tu riesci a vedere che lui sta per darti un pugno fortissimo nello stomaco, come riesci a scansarti? Lo svantaggio è? Il vantaggio è che non perdi la provetta nello scansarti. No, è lo svantaggio, quindi che perdi la provetta. Perdi la provetta. Ottimo. No. Lo svantaggio è che... Scusa. Per schivarlo perdi l'equilibrio e la provetta cade a terra. Si rompe. Lo sapevo, ho detto che ma che è uno svantaggio? Sì. Succede questo? Sì. È un po' troppo... Jacopo. Un po' troppo... Fermi tutti. La raccolgo io, cioè nel senso io ho le conoscenze mediche per capire come raccogliere il DNA, così ti fiderai di noi. No, cioè, non servono conoscenze mediche per farlo. Cioè nel senso recuperare la vita, c'ha l'agilità, no? Qualcuno c'ha vigilance, athletics. Con che bisogna tirare? C'è athletics, però devi pure riflessi, cioè. Quando ci avete di vigilance? 3. No, due verdi. Cioè non è che cade a terra, vedete, cioè che sta per imbattare, cioè nel senso lui come cade sta per terra. Ma io ho 3 verdi. Neanche. Allora vai tu. Io ho 2 gialli e 2 verdi, ma sono quello che l'ha fatta cadere. Quindi. Ma difficoltà? 3. Come? Beh, raga, se si rompe mica tu. Cioè, è successo. Va bene, no. Non è male. Io non dico niente. Si può fare. Vabbè, uno svantaggio. Lo svantaggio è che la calpesti pure. No, magari anche tu. Mi ci tuffo di muso, sbatto del grugno e grugno. Ragazzi, basta, è finito, si è rotto. Ma a questo punto fa culo la cosa, pensiamo a scoppiare. Siamo messi con noi stessi. Ah, lui fa, va bene. Ok, vediamo. Io l'ho detto subito. No, cosa è successo? Sono un po' spaventato perché era uno degli ordini che teoricamente avremmo dovuto avere. E chiedo, ma c'era solo una provetta? Ma chi te l'ha detto? Come? Che uno degli ordini? Distruggere. No, se noi ci fidiamo di lui... Lui ha detto che doveva distruggere questo. No, cioè, no, se... no, quelli erano i suoi ordini. Scusa, no, distruggere, recuperare, esatto. Quindi potrebbe essere una cosa importante per l'impero. Detto ciò, c'era solo questa provetta? Beh, lo so io, sì. Prendiamo questa provetta e mettiamoci un campione di qualcosa. Ma non ho capito, il tizio lì cosa ha detto del fatto che è caduto? Sembra sollevato. Ah, vabbè, se era questo il problema andiamo a spaccare tutto, dai, via. Dai, prendiamo un'altra provetta per sicurezza. Prendiamo una vuota, sì, esatto, una vuota. Ci avvicini al cilindro e come avvicini la mano al buco si apre e lascia una provetta vuota. Ok, posso farmi. Che ci piscia dentro? Che cazzo di medico sei? Io fumo la montagna, non posso. Ma che medico sei? Scusa. Raga, cioè... Sputaci, no? E via. No, dopo se ci trovano il mio DNA sono fottuto. Vabbè, ma ci pensiamo, tanto ce l'abbiamo. Certo che se fosse Boba perché il DNA sarebbe quello di fatto. Cazzo, cioè... lo prendiamo da un clone. Sì, no, lo so. Aspetta, lo prendiamo da un clone. Sono tutti uguali. Ma se lui lo voleva distruggere, quindi non vedere. Vuole farti prendere il DNA di Jango. Sì, c'è un motivo per cui quella matrice era così importante a quanto pare, che era da quella che riuscivano a... È vero. Era quella matrice, sì, certo. Beh, scusa, vai lì dove la provetti. Ma il DNA comunque, quello che è caduto, è distrutto, non si può, cioè, non si può fare niente. No, c'è cioè, questa pozzetta di acqua. Se non ho capito qual è il problema, ragazzi, cioè, andiamo. Come no, non menti quella? Ma non vedete che l'amico verde è felice? Dai, andiamo avanti. Sì, ma dopo si inculano i capi alti, oh. Sì, ma tanto ce la prenderanno con il vostro leader. Farti vedere. Mi provo a avvicinare. Cerca a farci un pezzettino d'acqua. E qual è la furtività? Certo. Fai la scarpetta sul DNA. Ma c'ho due cose. Ho anche scaldaggeri. Che schifo. È uguale. È uguale. Due successi e un vantaggio. Però io aspetto che si allontana un po', Quindi vedi lui che esce. Diciamo... e uscire tutti vale rimane sì. Nel silenzio sì, quanto hai fatto? Due successi è un vantaggio. Ok, vabbè, vedi questo che tipo si gira un attimo, ti guarda e fa e poi va avanti, cioè continua a camminare. Quindi cioè si va bene, cioè c'è tipo resti adesso qui. tipo il taino. Vabbè, un po' l'ho preso. Va bene. Cioè no, tu sei riuscito anche a recuperare quasi tutto perché era se no tipo versi l'acqua sulle superfici. Che schifo. Scivola via, rimane tutta compatta. Ma sarà secondo te proprio lo... cioè, lui. È lui il forse perché se l'ha rovinato di senti, ha usato quello per secondare sì. Tipo miliardi sì. Di cloni. Diciamo, ricopriamo di nuovo. Non si sa. Cazzo. Non si sa. Vabbè. Non mi è chiaro questa cosa. Io sono curioso, sono ossessivo, devo sapere. Io sono perché? Bravo. Perché? Perché? Perché? No, vabbè, perché posso, davvero, perché? Metti in tasca e andiamo, distruggiamo tutto. Puoi tirarmi in medicina? Io posso tirarmi. Io. Se lui vuole sapere, lui tirami. Se solo ce l'avessi, Valerio. Due via là. Un vantaggio tre. Niente. Due sondaggi. Ma sul lato è maledetto. Quell'uomo per te okay, è un bravissimo gioco. Ma tu ti hai fatto tre via. Cioè, probabilmente non... A parte che costa pure una maschera, quindi è difficile capire. Probabilmente una volta che casca per terra non gli fa più un cazzo. Quindi, vabbè, e... uscite. Io... Va bene, rimane solo una cosa da fare. Distruggiamo questo posto. Nel frattempo che lui cammina, prendo un pezzo e gli chiedo... sì, gli chiedo... Ehi, dove vai? Io ho una domanda per lui. Sembra una cosa stupida, ma se volevi distruggere il DNA, non potevamo distruggere tutto e buono? No. Volevo assicurarmi che venisse distrutto, personalmente. Va bene. E dove possiamo trovare delle esplosivi? Esplosivi. Esplosivi? No. Dove li troviamo? Ah, vedete. No? Sì. Vabbè, io gli chiedo informazioni dettagliate sulla tua armatura perché sono affascinato. Quindi dice, fatti... potevo fare... Vabbè, dai. L'unico momento della potevate. Io chiedo. Facciamo che ho flippato io perché effettivamente... Cosa mi pare? Era un po' troppo. Ma più altro, se avessimo flippato quando cadeva, potremmo dire tipo ci sta il parquet, una cosa del genere. Ci sta il parquet. C'è un tappetino elastico. Okay, scusa, non facciamo un pochetto. Lui ti dice... cioè ti guarda un attimo... Perché? Meccanico. Poi vede un attimo il suo braccio meccanico perché si vede che è un braccio meccanico. Come un braccio meccanico? Io ho un braccio meccanico. Ma era, ma non sappiamo un cazzo della nostra squadra. Cioè lui lo guarda, vede il braccio, vede tipo le cose di tessuto che pensano, cioè che dentro è tipo mezzo vuoto il braccio. e fa, ti comincia a spiegare come funziona il lanciafiamme, ti fa vedere tutti i meccanismi che lo fanno uscire dal polso, ti spiega bene la cosa. Magari in futuro potrai ricostruire il braccio di questo lanciafiamme, bellissimo, come Arnold. Ti comincia a spiegare il lanciafiamme. Va bene, Arnold Schwarz. Lo ascolto attentamente fino a quando andare via. E beh, lui cammina verso la parte che poi è detto esplosivi. Lui comincia a mettere i dadi a Valerio da vicino al microfono. Scusa. E arrivate in un'altra, diciamo, struttura circolare sott'acqua, cioè un'altra struttura cilindrica sott'acqua, che sembra più, diciamo, d'addestramento, roba di armamenti, così. E niente, comincia a cercare tra le robe. Intanto ci piacerebbe provare a metterci in comunicazione con... con l'alto. Brava. Provate a usare il comlink, dovete fare un tiro di computer. Computer, io computer. No, tu stai cercando le cazzo di carico. Voi due. Chi? Loro due. Oppure se vuoi puoi chiedere anche gli altri di cercare di mettervi IT guy. Il mio comlink non funziona, me lo mettereste a posto? Hai provato a spegnere e accendere? C'è soffiato sopra. Allora, questo ha vinto, flippa, dai. 53. Merda, sarebbe bellissimo. Due vantaggi. Che merda. Cioè, alla prossima volta chiedo al dottore. Della tua bravura, ma è per colpa del gabberino di Faraday, diciamo, letterale. Ok, dico, sì, non è un problema del comlink, è un problema che qui non piglia, in sostanza. Ah, bravo, perché se dice i gabberi di Faraday sono uno schiaffone. Cioè, questi già vanno a fare chi in laser e usano per radio ancora, non è possibile, se no. Superate, scassate. Superate. Pure io ci ho pensato. Cavolo. Bravi radio. Cioè. E quindi non so, quello va a cercare. Distruggiamo tutto, su, abbiamo le cose e distruggiamo tutto. Che devo dire? Sembra troppo convinto per contraddirlo. Vedete degli errori stare, vedete un po' di armature vecchie, di cloni, vedete un po' di roba vecchia, fucili vecchi. Io sono vedete... Mortelle. Tu conosci una nave che è abbastanza vicina a dove siete voi, che c'ha una nave enorme, tipo un crociatore imperiale, cioè quelle della Repubblica, cioè quelle a triangolo, che c'ha un portellone aperto. Un crociatore della Repubblica, quelli più piccoli, cioè quelli sempre fatti a triangolo, sì. Quindi no. Vabbè, quelli a triangolo della Repubblica, però. Cioè, ok, vabbè. E che poi sembrano più nuovi perché è fatto dopo. Quindi, vabbè, lo vedi che è un po' in rovina, però c'è un portellone aperto e ci sono delle casse che sono rotolate fuori. Oh, raga, ci sta un coso triangolare con... aperto con le casse rotolate fuori. E se lo usiamo per sparare le cose e distruggere tutto? C'è il portellone aperto e delle casse che rotolano fuori. Non ho capito cosa c'è dentro. Non lo so, c'erano delle casse che uscivano, magari ci sono altre. Ho capito, magari ci sono feti di sto tizio che hanno clonato, cioè... Vabbè, però scusa, se l'incrociatore c'ha le armi, usiamo le armi dell'incrociatore per sparare a tutti i cloni. Ci va, quello riaccende un incrociatore. C'è tipo le motoseghe, quelle che fanno infatti ho pensato armi. No, c'è il pedale. Che ne so, hai il pure a ok. È il capo, è il nuovo capo. Ormai è stato... sta facendo il capo, eh? Signore. Cioè, capi, sta facendo... Io non lo so, sono solo un medico. Non lo so. Mentre passa di qua. Tipo la musichetta nazista, io non sono un medico. fascisti di genere. Votate Valerio. No, serio, andiamo anche da là. Stanno crescendo in bassa, non lo vediamo, stanno crescendo i profeti alla Hitler. Andiamo a vedere. Va bene, andiamo. Avvicinate e c'è sto incrociatore che in realtà sembra che l'unico problema che ha è che nessuno lo guida. Esatto, cioè sembra che l'unico problema, esatto, l'unico problema è essere molto vecchio e nessuno lo sa guida. Cioè, è ingolfato, raga, è ingolfato. Cioè in realtà il portellone si è aperto, non si sa bene per quale motivo, sono usciti quelli che da lontano sono lo scatole, in realtà sono container enormi. Ah. E questi container dentro c'erano armi, roba, donatori, cose, cioè, ma incrociatore, ma senso... il medico sai leggere, c'è scritto loot nelle casse. Questa cosa sì, infatti, scusate, le casse sono lasciate per l'incrociatore. Allora, immagina che l'incrociatore, allora, quelli grossi hanno l'hangar sotto, cioè, cioè il tira sotto, sì. No? Come... Okay, questo ha un'apertura di lato, esatto, per poveri, è molto più piccolo di quelli normali. Ah, meno male, perché molto, molto più piccolo, ma molto molto più piccolo. Però comunque è un piccolo hangar, okay. Che è tipo un'apertura che normalmente è accesa, c'ha cioè tipo la barriera di legno. La barriera? Sì, okay, oddio, no. Battlefront, grazie. capisci cosa sto dicendo? Ho capito. Che è spenta. Perché ovviamente non è nello spazio e non è attivo, e da quell'apertura sono buttate fuori questo portellone aperto, cioè non è un portellone, vabbè, delle cose, dei container. Ma sono aperti questi container? Molto bene. Container di navi, cioè container. Okay, ragazzi, propongo una cosa. Rimettiamo il contenuto dei container nell'incrociatore e prendiamo l'incrociatore. Che c'è il container? No, cioè, in ogni caso non sappiamo, però in quel caso faremo una nave poi. Una nave gratis, cosa? Questa è roba dell'impero, va restituita all'impero. Cioè a noi. Ma no, non era del cazzo, sì. Infatti è vero. Cosa? No, cioè diciamo cioè, che siete soldati o siete contrabbandieri? No, io avevo capito che era una nave nemica, scusate, non ci avevo capito niente. Allora, sì, certo, la restituiamo. Vabbè, noi la prendiamo per restituire all'impero. Dobbiamo distruggere, però prima distruggiamo sto posto per l'impero. Ecco, per il distruggere sto posto, dove sei tu, spariamo, l'uscita però? L'uscita è... ci facciamo strada, ce la facciamo ecco noi l'uscita. Distruggendo tutto. Se un hangar si aprirà per far uscire le navi, ottima intuizione. Computer, cioè non credo che le navi si smaterializzano. Non il servus. Cazzo, dai. Quindi cerco. Prima di tutto, ho smanetto 5 minuti nel container. Voglio prendere armi, qualcosetta. Trovo qualcosa interessante. È un po' di loot. Trovi un'arma interessante, funzionante. Arma interessante, mi piace. Cioè, arma interessante. Lo chiamerò arma interessante. Poi voglio ruttare in un altro container. Ruttare in un container, fatto l'eco. Perché l'arma interessante in realtà è un blaster, fucile di ordinanza dei cloni, che è ancora funzionante. Okay. Heavy, ranged heavy. Okay. Mi sembra. Vabbè, il blaster di quello dopo ti dico. Range. Non mi ricordo se è medium. Vabbè, te lo dico dopo. No, grazie, è medium comunque. Fa danno meglio. Trovi anche un detonatore termico. E un paio di granate. Cioè che tu pensi che siano funzionanti. Vabbè. Hai detto detonatore termico. Sì, nel dubbio si tirano. Posso lootare un altro container? Allora, io in tutto questo mi imbosco il detonatore termico e le granate non faccio finire. Cioè, no, aspetta, se io lo vedo no. Vabbè, tira in pestente. Ah no. Ho fatto un tiro contrapposto. Io ti ho disperto. Ho stealth contro perception. Sì, meglio fare tutti e due i tiri rispettivi. Tre vantaggi. Guarda, ti fai una foto a sti due dadi. Vero. Uno è quello. Che sacco di merda. No, io sono quello giallo. E uno è quello. Che sacco di merda. Aspetta, due vantaggi. Il primo qual era? Due vantaggi e due vantaggi. No, due successi e due successi. Che cazzo no, dite no. Vantaggi? Chi è che fa? Ah no, i successi vincono i vantaggi. Ma brutta. Sara, quanto ha fatto? Non ho capito. Due successi io ho fatto... No, io ho fatto quattro successi. Ah, ok, quindi. Fasco. Tu eri Edoardo che cerca di imboscarsi un detonatore termico. E Ciccio, scrivi nell'inventario. Sì, sì, ho già scritto. Hai già scritto, sì. Io prendo nota, Va bene. E poi vi faccio vedere, vabbè, due granate, però se permettete la pistola pesante me la tengo. Sì, sì, tanto le pistole non le so usare. Cioè, volevo dire... Vabbè, insomma, ho appunto due granate, il detonatore termico e la pistola pesante. Adesso allora, finisco l'azione per quello che fa. Prima di tutto cerco un duplicazione di cose su Star Wars, che sono su Star Wars per aprire gli hangar, insomma, queste cazzate qua. Se lo trovo, cerco una console. Una console. Cerco di aprire l'hangar e vado nell'incrociatore. Perfetto. Questo è tutto quello che fa. Esatto. Okay. È quello che faccio poi. Ma scusami, io non sto capendo. L'hangar che cioè, come funziona? Cioè, allora si guardi un po' intorno, diciamo. Magari non c'è un hangar normale, non è un hangar di quelli che dici, oh vabbè, parto allo dritto, è sopra. Cioè vedi esatto, cioè vedi che molto in alto c'è tipo un coso che pensi che sia quello che si apre davanti, non c'è nulla davanti, è un muro, okay, cioè, tipo una cupola con un sì, col decollo verticale. Vabbè, cioè. Vabbè. Quindi loro sta facendo quelle cose. Il decollo io... verticale, quindi passi in mezzo al volo e poi via. Praticamente sì, l'incrociatore allora spoiler tutto mentre sali. Sì, l'incrociatore, vabbè, questo lo spoiler, quando sei in una nave devi moltiplicare tutto per 10, quindi il danno che fai a una persona è moltiplicato per 10 e il danno che ti fa una persona è diviso per 10, quindi fai molto male. O se lei vabbè, che conviene, beh, se fosse incrociatore quello del non sarebbe strano, sarebbe un po' più che 10 penso. Se spari una persona niente, quindi niente, tu vedi, trovi questa console, vabbè, quindi dico vabbè, vedete voi insomma. Intanto, per smanetta posso cercare anch'io tipo sì, no, non per voglio qualcosa in particolare o che lui come a caso vai, cioè. No, io cioè diciamo cerco in particolare esplosivi perché stiamo cercando di far esplodere una cosa anche se magari qualcuno sta pensando di fare okay, in un altro container trovi un esplosivo bello grosso praticamente è un coso che levita, cioè è messo su uno di quei carrelli di Star Wars che levitano con okay. Le mani e sembra essere una carica termica bella, bella potente tipo che per i vostri scopi potrebbe essere molto utile, diciamo. Ok, quindi al comlink se vabbè se sto lontano dai capi dico capo, ho trovato un detonatore. Sì, un detonatore, scusa. Vabbè. Una carica che potrebbe essere utile. Sembra possa produrre un'esplosione abbastanza potente. E poi col carrello comincia a fare: voglio uccidere, boh. ok, vuoi? Poi voglio cercare qualcosa in particolare? Sì, roba medica e una spada laser. Report allora tira perception sei sicuro Jacopo? Difficoltà 4 perché hai detto spada laser. Non era scherzando, adesso ti dico io la difficoltà per trovare una spada laser. Vabbè, 4 è tipo il massimo. Ma io c'ho solo perception, ma non posso usare qualcos'altro tipo astrogation? Le metti a calcolare le mappe. Quattro vantaggi, boom, baby. Lo so. Calmati. Un vantaggio? Se ne tira altri due, cioè... Vabbè. Hai... Aspetta, un insuccesso è? E uno svantaggio. Uno svantaggio. Lo svantaggio è che non trovi niente di medico. Ma se uso un pallino per farmi trovare una spada laser? No, non puoi, non, cioè, nel senso, ormai tu hai tirato. Sale è andato per, la, per la via del Gianfi, comunque. Tu ormai hai tirato, potevi venire prima a farci. No, no, no, vedo, cioè, perché poi se mi vede... No, puoi, puoi... Hai un pezzetto della squadra. Anche Valenza. Puoi trovare... Uno stimpo. Posso flippare per la squadra. Ci siamo. Quelli che ti dubbi. Hai visto? Io posso trovare qualcosa riguardante la base, puoi provare un cristallo, un qualcosa. Cristallo piano. Vabbè, qualcosa... Sì. Difficoltà 3. No, no. Se spadate. Io me la devo fare a spadate. Sono prima valutate, piano. A doppia lama. A doppia lama che sono i vostri. È tutto tipo quanto. Sì. Oh, Lesi, adesso vi dico questa. Solo, per il, solo per il cristallo, la rarità è 10. Quindi la difficoltà è 1, 2, 3, 4, 5, più il master potrebbe upgradare ancora di più la difficoltà. Ma io farò che è 4 più l'upgrade. Ma che cazzo di culo, ma perché c'è così tanto di perception? Perché no cunning, cioè, c'è tutto. So ma dai, con la mia intelligenza che ci faccio? Salvinite. Uno con il suo lavoro ha salvato milioni di vite. Ma quando ti quantità di migliore? Cosa fai? Te? Hai detto pezzettini dell'Elsa, eh? Sì, qualcosa. Fammi la frase. Uno piccolo terra. L'Elsa, il laser da secondo tre. C'è la. So tre. Quattro. Quindi questi due via, c'ho cioè due successi e due vantaggi. I due successi sono che trovi un pezzettino che... Tu, il bello è che lui va via, tipo vedi lui che... Tipo, niente. Oh, no, cazzo! Tu torni là, ma che... Oh, no, non c'è... Vabbè, tu hai chiesto una spada laser. Cioè. Vabbè, quattro piuttosto che tre, sai che è piuttosto che io sono solo due di perception. Ma quindi che trovo, scusa? Trovi un pezzettino dell'Elsa che dovrebbe servire, cioè no, non il cristallo, c'è cioè, dei pezzettini metallici che ti possono servire per fare l'Elsa. Ok, come volevo mi scrivo? Scrivi un pezzetto di spalase. Pezzo di cazzo. Pezzo di spalase. Pezzo di Elsa, pezzo di cazzo. No. Va bene. I vantaggi, una parte della i vantaggi sono che... vantaggi sono che... Non lo so. Mentre cercavi trovi anche tu uno steampack. Ok, grazie. O se no li trovi tu, non so, cioè... No, no, vabbè. Poi, Cristiano? Anzi. Aspetta, la parte di una spada laser può essere, cioè, generica oppure quella che serve a me? In che senso? Quella che serve a me, dai, due vantaggi. Non di quella che serve a me. Che non vuole essere doppia. Vabbè, comunque una parte... Una parte di spada laser. Un pezzetto, cioè. Vabbè, l'Elsa è diversa. È proprio che ci fai, dipende da te. Sei un po' troppo pretendente. Io lutto pure, sto mondo. Cerco in particolare... Non prendo lo stimolo. Degli olovron che ci fanno capire qualche registrazione per capire qualcosa in più su questo posto, che succede, dove c'è. Ah, vedi quando uno non è egoista? Esatto. Senti, io lutto cercando degli exp. Allora, tu tira perception difficoltà 2. Comunque mentre tutti si prendono la roba e sono il mio carico esplosivo. Quindi un vantaggio. Ma questo cos'è? No, più che altro se vogliamo distruggere con l'incrociatore. Questo cos'è? Svantaggio o... Ragazzi? Quello è svantaggio. Quindi, quindi ho due vantaggi e un successo. Allora, due vantaggi, sì. No, aspetta, come un successo. Zero successi. Ah, sì, scusa. Solo due vantaggi. Due vantaggi e basta. Non trovi un holocron. Ma trovi che un olocron è abbastanza raro da trovare. Trovi però un tizio morto, cioè un scusami, un camionano morto che in mano c'ha un datapad che è camionano credo Camino Tauro. Questo adapad te lo puoi mettere e ci sono delle tipo delle mail, delle cose che vedi che sono abbastanza come si dice? Vanicati, cioè abbastanza vanicati, come si comunicano, tipo che l'impero ha scoperto che loro stavano risfondando coloni, hanno scoperto l'infezione, stavano arrivando, insomma, stavano preparando all'assalto. Niente, allora, Salla, quindi? Io cerco degli exp. Devo tirare. Niente, devi tirare... Sono un po' per... Vabbè, do un'occhiata in giro, ma vediamo, nel caso. Cerchi qualcosa di specifico? No. Ok. Difficoltà? 3. Sì, vabbò. Allora, c'è un trionfo, poi c'è un insuccesso e uno svantaggio. Merda. Un trionfo, un insuccesso e uno svantaggio. Quando succede? Quando il trionfo succede? Vuol dire che ho fallito nel cercare, ma è successo qualcosa di tipicamente figo. Ah, ho capito. Vede Salla che sta tipo smanettando in un container. Che schifo. E mentre smanetta... Manetto il microfono. Mentre smanetta vedete che lui per sbaglio dà tipo una botta a un pezzo di metallo. Mi piace una spada laser. Che improvvisamente tipo si accende e prende vita ed è un droide di quelli che fanno riparazioni. Cioè prende quelli che ci sono davanti. Sono tipo un cappello. Quelli che spegni con la botte in testa si spengono e diventano tipo un cappello da minatore. Bellissimo. Quelli piccolini su episodio 1 che c'hanno per i. Quello che spegni. Quelli grid, quelli tocca. No, adesso sul naso. Comunque. Ma fa anche qualcosa di utile? Vabbè, vedi che tipo si attiva, si guarda intorno, vede la nave che sta tipo tutta quanta da un lato. E comincia a correre verso la nave. Oh no! Diventi una strambetta, cerca di correre verso la nave. Lo grabbo. E flippo. Ok. Flippo. Lo tengo sollevato da terra. E... Ok. Ma parla qualche lingua che posso capire o no? Parla il linguaggio dei droidi. Certo, dei droidi, questi sono più di 4 droidi. Rega, qualcuno capisce cosa fa sto tizio? Sì, ok, uso la forza, dai. Vado io, lo posso capire. Ma più che altro gli chiederei a Edoardo di hackerarlo per cambiare. Ma nessuno dice niente del fatto che ho sollevato un tizio. Cioè un droide. Cioè, sollevato con la forza, perché? Sì. Ah, lo stai tenendo a mezz'aria così? Sì, lo sto tenendo a mezz'aria, ho messo, committo il dado forza, lo tengo a mezz'aria e lui zampino. Ok, vedete Sala che sta facendo così, se c'è un droide... Finalmente, basta questa segretezza. Oddio. Non ho altro da dire. Io sono confuso perché la mia... Andrea lo sa. Messo la forza è che sia un'antica religione, quindi... Allora, di Star Wars la cosa bella è che anche chi ha visto il Chiamato dei Jedi pensa comunque che è una storia, non esiste. Ah. Veramente? Vabbè, ma questa cosa non esiste, è impossibile. Regà, qualcuno parla la lingua di sto cazzo di droide? Cioè, sto andando verso la nave, provo a tornare lì a capire cosa sta dicendo il droide. Nessuno ti dico, oh mio Dio, oh, tipo caccia il tasto e comincia a sparare. Nessuno c'ha reazione. Beh, no, allora, al massimo mi viene un tipo divinità, ma questo è un altro discorso. Quindi tu puoi avvicinarti a collegarti col tizio? Provo, sì, provo a capire cosa sta dicendo il droide. Ti avvicini e tu comunque hai le tue belle esperienze, lo capisci al volo. Stai cercando di andare verso la nave e rimetterla in modalità levitazione, pronta a partire. Ma allora vieni con me, amico! Lo porto, prendo, cioè, piano. Ti dico, posso prenderlo? Volevo andare nella nave e aiutarmi a farla partire. Va bene, poi comunicaci quando partiamo. Va bene, penso presto comunque. Va bene, Gentaglia, finite di raccattare queste cose da poveracci che tanto dovrete restituire all'impero e andiamo. Va bene, io vado verso la nave e cerco di farla partire. Ok, ma aspetta, rimanga se è aperto. Ma ha una domanda sul tizio verde, cosa dice? Che ti mando una console che vedete qui. No, poi sono stato perché... Vabbè, vabbè, lo sfondiamo, tanto ormai io ce l'ho. Prof, Green Lantern, cosa dice del fatto che questo... Infatti è rimasto un po'... No, cioè, Justin Hill non è particolarmente... Non ha una reazione particolare a questa cosa. Cioè, sono un cazzo di Force User, ora lo prendo e lo sbatto contro il muro. Ah, non dici niente? Bah! E ora? Dammi le attenzioni e mi merito! No, vabbè, vabbè, oh, cazzo no, cioè, lui ti guarda e non, nel senso, non riesce a vedere attraverso il visore a vedere che espressione fa. Però ti sta guardando. Luga. Andiamo? Vabbè, vedete che lui va con Luca ad aiutarlo a piazzare le cariche. Dove piazza le cariche? Nessuno mai niente, ha detto solo ai miei capi io le cariche. Sono proprio col carrello così. E lui ti piglia, nel senso che prende a te il carrello e ti guida verso la... Ma Bobo. Sì. Ok. Justin Merrill sì. Ti... Va bene, no, vado col carrello. Vabbè, su chiunque sia, insomma, ti guida verso le cose e... Niente, guarda un attimo la bomba e fa: ah, ma questa in realtà penso che sia sufficiente lasciarla a caso in questa stanza. Ah. Madonna, sei un espertone comunque. Cioè, dovrebbe essere un dispositivo. Cioè, lui lo guarda, tipo lo apre, cioè fa aprire la cosa, la serata. Lo guarda un po' e fa: questo è sufficiente a far scoppiare una nave dall'interno, quindi direi che possiamo lasciarlo qui. Perfetto. Niente, dietro e lo lasciate lì, lo attivate, cioè nel senso... Gli chiedo scusami, ha un'attivazione a tempo, attivazione a distanza, attivazione vicina, lui dice no, a tempo. Cioè, a tempo? Dobbiamo darci un timer di fuga, diciamo. Che bello, sarà come una fuga. Scegliete la vostra morte. Vabbè, direi che... Un paio di minuti basteranno, ti? Ma 12 minuti. Bene. Metti 12 minuti, cioè lo mette lui, perché pare che sa che cos'è. Ok. E niente, poi tornate verso la nave, verso l'hangar. E diciamo, ragazzi, abbiamo 12 minuti, se no scoppiamo come dei popcorn in microonde. Okay. Yeah, man. Salite sulla nave e trovate Eduarduccio che sta tizio. Non si accende la nave. No. Io ho messo 12 minuti così. Ok. Niente. Cioè... Vabbè, in caso flippiamo il flippabile. Infatti sì. Dai, funziona sta nave. Su. Non lo so. Tu sei arrivato in plancia, tra virgolette, passando dall'hangar con il tizio e lui vedi che comincia a smanettare. Con le console sa dove deve. Ma che vai. Schifo, dai. Certo, di sapere quello che fa per replicare. Quello. Io pure sono pilota spazio, posso. Cioè. Ok. Allora, tu. Allora, qualcuno che siamo. Nel frattempo. Tu capisci. No, che... io sto benissimo. Vale, fammi una cura. Ma è stato meglio. Il problema è che l'hangar. Non è più attivo, tipo siamo saliti sulla nave e io ti dico medico puoi fare qualcosa per questa bomba subito. Ok, allora l'hangar non ha più potenza per far levitare lui la nave, quindi tu capisci che dovrai molto, cioè con molta pazienza, manovrare la nave per non farla sbattere, cioè dovrei fare normalmente le manovre per decollare, insomma, che sarà una cosa difficile perché è abbastanza stretto. E, quindi c'è il tizio che sta cercando di far ripartire la, come posso dire, la cabina di pilotaggio, il motore, tutto quanto, e tu capisci che il problema di farla ripartire è che ci sono alcune console che sono rotte. Proprio rotte, non riparabili. Cioè la parte, diciamo, come posso dire, come se fosse questo schermo che è tutto inclinato, rotto, però dietro funziona. Cioè la parte, diciamo, essenziale funziona, il problema è riuscire a mandare i comandi al... Ok, chiedo al droide se può collegarsi in qualche modo all'interfaccia e dare comandi lui. Lui fa così e indica Cristiano. Speriamo che non finisce come le trappole. Ah, quindi capisco, ma forse quindi va pilotata manualmente? Iniziamo. Toccherà farlo a me. Va bene, tu ti avvicini, lui ti prende il datapad e lo attacca a dei cavi e poi fa così. E tu... No. C'è lui con il timer. Comunque Valera mi sta curando, io sono tutto tranquillo, sono una bomba, sta per esplodere. Cambio notore, no? Bene. Esatto. Boom. Tre vantaggi e due successi. E il contrapposto che cos'è? Oddio, i vantaggi che sono? Ah, è strain, è vero. Tre contigui, tre di strain e due punti salute. Ah, oh! Ma non... quante volte può farlo questa cosa? Una volta al giorno. No, lo può fare una volta ogni scontro. Ah, è vero. Madonna, cioè... Più un punto al giorno, sì. Quindi due punti salute. Madonna, so però. Beh, perché non curi me, stronzo? Quindi non sono lavoratore. No. Adesso no. Sì, sì, sì, a persona. A persona. Sì. Allora il concetto è che è come se lui potesse fare un primo soccorso a tutti dopo che sono stati feriti. Quindi se tu subisci una ferita, lui ti può fare un primo soccorso. Madonna, tre strain e tre punti di ferita. Grazie. La ringrazio. Sì, però... Ma stai tirando la difficoltà? No. Ma di la difficoltà? No, cazzo, è vero. Quanto è la difficoltà? Ah, dipende, se hai il kit medico. No, aspetta, quant'è la difficoltà se c'è meno capito? Ah, dipende, hai il kit medico? No. Io? No. Allora è già un in più del kit medico che non ha. In più è uno se ha meno della metà dei punti ferita persi, due se ha più della metà e tre se è sotto zero. Ok, devi tirare i due, devi tirare i due. Anche per me le tiro tutti allora. Aspetta, sia per me che per Andrea. Sì. Ok, la posizione da campo. Sì, scusate. No, vabbè. Tre, quindi, non due. No, secondo devo tirare quindi due. Due. Due soli. Però uno perché è più uno che una giacchetta. No, no, è uno più uno. Uno più uno. È uno più uno. Okay. Perché ci abbiamo più tutti più della media salute. Ok Luca, gli ho tolto il saluto sullo strain, no, vabbè. Ah, ora mi sembra un medico serio di Star Wars. La vera natura di Valerio, vai, tira per me. Fa fare il culo, stronzo. No, dai, tira i vantaggi, che almeno i svantaggi, che almeno mi serve lo strain. Sì. A posto. C'hai tre ferite e uno strain in più. Grazie. Mi dispiace. Grazie. Sto sfuggendo. Siamo 7 minuti comunque nel frattempo, mentre voi smettate. Cristiano, portaci fuori da questo posto. Hai messo il cronometro? Ma sei un maiale. Sì. Dai ragazzi, veloci, su, soldati. Allora, devi farmi un tiro in piloting per accendere la nave. Siamo morti. Piloting planetario. Posso aiutarlo? Ah, planetario l'ho fatto. Sì. Hai un blu perché, come lo aiuti? Premere la lezione. Ti metti fuori e gli dici vai dritto. Più destra, più destra. Dai, no, che tempo scorre, cazzo. Non lo so, cerco di utilizzare al meglio possibile le console sane, che ne so, magari stabilizzando. Era meglio, no, vabbè. Non sai, scusa, se uno si mette da una parte che vede fuori gli dice e le camere di sicurezza. Vabbè, cerchi di, non lo so. Vabbè, dai, va su Netflix, vai su. Vabbè, non ti aiuto, niente blu. Ma perché siamo del... Aspetta, mettici un blu, ti aiuto io. Come lo aiuti? Dicendoti, dai, muovi il culo, io credo in te, sei il miglior pilota che conosco. Io credo in te. Vabbè, metti un blu, dai. Sempre questo... È così che si fa leadership. Difficoltà, no, aspetta. Difficoltà 2. Ma perché probabilmente lui pilota meglio. Difficoltà 2, vai. Non trovo. Si può fare. Buono, un successo e due vantaggi. Riesci a accendere la nave e a farla entrare in modalità, diciamo, decollo verticale, levitazione. Come i caccia quelli. Tagli, cioè no, tagli, scusami, come ti alzi, fai cadere gli ultimi container, cioè escono dal campo di forza, e i motori, come si accendono quelli dietro, distruggono un po' di roba lì nell'hangar, così. Niente da che. Niente. Vai. Andiamo. C'è pure 4:40, non c'è un inconveniente, c'è un problema. Per far sembrare... Oh, meno male. No. Che l'hangar è chiuso. Ah, bene. Non so. Vabbè, quando scoppia la bomba si apre. No, hai detto che devi aprire. Con noi dentro. Sì. Ok, l'hangar aperto. Cioè, no. Cioè, no, prima, volte, appunto, che prima andava la console per l'hangar e poi andava... Ah, per... ok. Ok, ho capito male. Andiamo. No, cioè, scusa. Ci doveva essere questo inconveniente, però lo credo un inconveniente. L'hangar aperto. Ho visto qua contro il favore. Che pazzo! Vabbè, vedi che... Qualcuno ti valeva, tipo... Vabbè, sono 4 minuti, allora cominciamo. Ah, c'è il tempo. Esatto. Più che altro non c'è colpo di scena, perché esatto, si allontani in tutta calma, ritorni, ragazzi, e l'esplosione non c'è. Così strano, cioè, non dovrebbe essere. Dovrebbe uscire quando tipo... mancano 10 secondi, però potremmo sviluppare un dado bianco, farlo, cioè diventare nero, e facciamo finta che ci mancano 10 secondi. E dovremmo farlo bianco, come fa? Ci facciamo noi quelli contro. Cazzo vuoi? No, bianco-nero. No, allora, siccome avete scelto, siccome giusto, avete dosato bene i tempi, cioè avete, siete riusciti a dosare bene i tempi col timer, vedete la nave che esce dalla superficie del pianeta, che mancano ancora praticamente 3 minuti all'esplosione, vedete... Justin Reed che vi fa andate verso quella piattaforma, c'è la mia nave che ho detto, cioè ho dentro la mia nave che tipo che sta smanettando con l'abbraccio che di atterrare lì e mi attende lì. Okay. Allora dalla nave vedete che sulla, cioè in realtà i combattimenti sembrano essere finiti, cioè come essere gissati. Ok, fai rapporto, Andrea. No. Troppa sofferenza. Che dire, siamo scappati da una bomba con più di 3 minuti. Che cosa poco rimane, cioè poco... Non faranno mai un film su di noi. Addio Bruce Willis. Potete fare finta che stia per scoppiare. Okay. Saltiamo dentro la nave. Andrea è morto. Fallo sto rapporto, Andrea. No, delego tutto al mio mentore, grazie. E pronto? Comando? Sì, rapporto. Sì. No. Senti, vedete quell'esplosione che sta per arrivare? E intanto... Ok, puoi fare... Cioè, se vuoi puoi fare in modo che quando lo dici ci sia proprio l'esplosione in quel no, momento. Aspetta, prima chiedo, qual è la nostra missione? Che non si era sentito bene. La missione era... Non si è sentito bene là sotto, le comunicazioni erano quasi... La nostra missione era recuperare il DNA e distruggere gli impianti di creazione. Perfetto. Guardi, sì. Ce l'ho io. Ah no, ho due buone notizie, posto. Perfetto. Guardi sotto la piattaforma. In quel momento, mentre dici piattaforma, e un'esplosione gigantesca fa sollevare una cupola d'acqua enorme. E ora possono fare il film. Esatto, la struttura centrale è sparita insieme a una dozzina di stormtrooper che erano lì per far scoppiare con una bomba. E... Fanculo. La patria. E... Vabbè, ci abbassa ancora di più la moralità, preciso. O no? però questa cosa. Non lo sapevamo? Non lo so se non lo sapevamo. Non ci abbiamo pensato proprio per niente. Comunque come cattivi riusciamo. È molto più facile fare cattivi. È vero. Insomma. Quindi dice, ottimo lavoro. E la provetta? Ecco voi. La provetta ce l'ha il mio medico, cioè il medico che ci avete assegnato. Ve la consegnerà appena attacchiamo. Superiori che ho visto lui fare una cosa strana. Però, no, però... non puoi dirglielo perché sono l'unico che gli può parlare io e Andrea che lo sapeva già, tra l'altro. No, io lo fai farlo. Il rapporto medico. L'incrociatore siamo noi, è un regalo per il nostro amato comando, ci ho pensato io personalmente. L'altra cosa, purtroppo non ero presente quando il medico ha preso il DNA, però era col nostro contatto, quindi poi parlerete con loro. Va bene, messaggio ricevuto, passo e chiudo, dirigetevi verso la verso l'incrociatore, quello, l'incrociatore imperiale, verso la base. vedete che mentre parlate Justin Hill si dirige verso l'hangar e dagli schermi vedete una figura che tipo salta e atterra su una piattaforma e prende la sua nave. Cosa? Come, scusa? Ragazzi, è il momento propizio, spariamogli con la nave adesso. No, sta capendo, aspetta. Ammutiniamoci. Mentre lui stava parlando col comando, vedete Justin Hill che si allontana dalla plancia dove state voi, va verso l'hangar dove siete entrati, e negli schermi della nave dove state voi, un po' disturbati perché sono rotti, vedete una figura che salta dall'incrociatore a terra col jetpack sopra un'altra... È morto nella caduta. No, ma non ho capito una cosa. Forma dove c'è una nave di strana forma che lo aspetta. Di strana forma come... Come la nave di Bobo. Cioè, ma quindi è Bobo. Cazzo, era Bobo. Luca, io sono Luca. Non gli possiamo sparare. No, potete, perché... possiamo non sparare di poco. Ma quindi che dovremmo sparare? Non ci abbiamo motivo per sparare più. Beh, batti. Proviamo le armi. Poi no, spara. Beh, ragazzi, il problema è questo, vogliamo essere... No, dicevo, il problema è questo, vogliamo essere disertori e andarcene con l'incrociatore o no? Questo è il vero dilemma. No. E allora andiamo. Qui cioè il nostro gruppo chi è legato veramente all'impero? Tu, Salla, io, cioè... Vabbè, più o meno. Beh, in realtà io se trovo un'opzione migliore per diventare più forte. E... Cioè, allora, essenzialmente ognuno di voi ha dei motivi per essere l'impero. Qualcuno ha motivi più forti di altri per rimanerci ancora un po'. Boh, io però sì. Non ho capito. A lui non gli piace molto. Vabbè, è chiaro che non deve essere fatto un sondaggio, cioè nel senso se uno no, nel senso se uno si scopre troppo, magari pure gli altri. Era una domanda tra noi, non fuori. No, per dire gli altri. Niente in game, Salla è il leader, cioè Salla Andrea. Sì, no, per dire. Bene, torniamo a casa. Ah, rega, se qualcuno fa parole di droidi che volano, potrebbe anche volare. Beh, quindi piace, quindi lui ha fatto questa cosa, poi minacciato. Adesso pensare cosa farebbe il mio personaggio. Chiedo al mio capitano se posso tenere il detonatore termico. No, vabbè, adesso c'è, cioè, parliamone. La squadra è unita, io coprirò voi in questa cazzata che avete fatto con il DNA, fidandovi di quel... No, io ho cercato di prenderlo e riportarlo, mentre il tizio lì, quello lì a cui non abbiamo sparato, lo voleva distruggere. Sì, ma noi stiamo riportando a casa una provetta con il DNA. Quindi io mi prenderò la responsabilità del DNA. Perché lui ha fatto cadere, quindi la colpa è la sua, mica la mia, che scala. No, in realtà se l'avessi lasciato allo stronzo l'avrebbe buttato lui. Ma quello ti ha visto mentre non c'era mai scappato. Ah, non benissimo. Scusa, ma non ci sono delle mezze per una... Beh, possiamo ancora spararli. Oppure posso fare... Sì, su garage adesso? Sì. Oppure posso fare ricorso alle mie conoscenze mediche per sapere se è successo qualcosa. Vai. Difficoltà 3. No, scusami, difficoltà 2. No, vai. Col cambio. Porca puttana. Devo dire che zero. Potrebbe essere completamente distrutta. Come no? Non posso usare un punto forza positivo per vai. Per farla essere... No, puoi usarla per cambiare lo verde in modo giallo. Vedi di ritirare. Tiri due dadi gialli, due dadi verdi, due dadi... Ma se no non si può modificare per farla essere... Hai già tirato, vedi prima. Cioè, oppure... Ma questa è un'altra cosa. Io adesso voglio farlo per cui non sia rovinata. No. Non piace manco a me il flip, no, così, perché è un evento che è successo prima, sì, capito? Cioè, no, in realtà non potrebbe neanche flippare per ritirare, se è proprio... esatto, per rigore c'era mai fatto il tiro. Cioè, esatto, devi dirmelo prima, in teoria, però ti consento, siccome siamo a fine sessione... Vabbè, allora faccio il cambio... Fai due gialli, due... Scusa, spazio una domanda. Devo ritirare un'altra volta tu. Tu prima non potevi flippare per usare la forza e mantenere la proprietà... Per aria. Sì, ma non sarebbe stato divertente. Madonna! No, ma io l'ho fatto a flippare prima. Però quando è successo? Capisci che la provetta probabilmente non è più utilizzabile il DNA. Cioè, per gli scopi della clonazione non è più utilizzabile. Ok, capisci? Allora... No, capisci anche? Capisci anche che è possibile con un'analisi capire che è stata manomessa in qualche modo... Ma il trionfo è che probabilmente non ci saranno conseguenze per questa cosa. Cioè, dal loro punto di vista, tu la tua missione l'hai fatta. Chiaro, per un buon trionfo. Esatto, cioè, probabilmente non è negli scopi dell'impero continuare con la connessione, ma solo per avere una... Allora, squadra, io direi di... Cosa? No, perché è manomessa. Io direi di rimanere uniti. Di rimanere uniti, e l'unione delle nostre versioni sarà la forza che ci aiuterà a scalare questo. Basterebbe dire che è stata manomessa. Cos'è che rompi? Soldato, cosa hai detto? Scusa. Sì, sono d'accordo. Visto che ci sono le tue impronte lì sopra, secondo me l'ideale è dire che il tizio Boba Fett, tizio lì, voleva distruggerla, e abbiamo cercato di impedirlo, che poi è la verità, e tu hai cercato di salvarla. E basta. Sì, si può dire così. Come altro vorresti dire, soldato? No, è perfetto, perché è la verità, d'altronde. Che di fatto è vero. Quindi sì, certo. Nessuno ci impedisce di insultare Boba, Justin Bieber. Ok, andiamo al centro di comando. Oddio. Andiamo al centro di comando. Io comunque ho guardato Luca un attimo. Mi sento il dubbio nei suoi occhi. È vero, non mi servono altre 3 puntate di questa stagione. Per morire. No. La sessione finisce qui, nel senso che adesso voi tornate là, bla bla bla, succedono cose. Però questa volevo fare una cosa veloce per fare tipo tutorial collegato. La stagione in realtà sarà molto diversa, però. Ma quindi ci sarà una stagione? Se vi piace, cioè se vi gusta il gioco, il sistema, la campagna, non so, i vostri personaggi, qualsiasi cosa, continuiamo. Sandy Mallexp. Yeah. Allora cioè, ma no, se ti piacciono le cose, allora, prima cosa, per finire finiamo tutto. Finiamo tutto. Finiamo tutto. 10 e chi è forse? Vabbè, Valeria, Sala. Che è un di 10? Un dato da 10. Non ce l'ho. Valeria ha fatto 8. Però ha fatto, siccome hai curato un botto di gente, hai fatto un sacco di cose. Diciamo, un app. Un sacco di cose generose. Sì. Perdi solo 3 di moralità. Scusa, aspetta, però. Cioè, guadagni. Questa cosa. No, cioè, qui, il fatto che abbia curato altri compagni diversi a lui. Però se tipo curassi a noi per l'obiettivo della missione non sarebbe tanto grave. Lui però effettivamente ha provato a curare altra gente. Sì, ma poi ha provato a curare altri. Ha agito sempre per il bene di altri, ma non è mai stato troppo avventato. Questo vabbè vale anche per Salla, per Andrea. Ma scusa, quanti punti ha preso? Il fatto che è un medico e che non usa la sua esperienza di medicina per fare del male, ma per curare lo... Cioè... Vabbè, però pure i cattivi. È pure di questo, no, no, no, però non è, cioè, curare un cattivo, se lo curi davvero, è comunque una cosa buona, nel senso che se tu curi un cattivo, nel senso tipo da Strider che gli ficchi delle robe, quindi Barba di Nero è stato buono, lui no, cioè quello è un'altra cosa. Ah, se però mi fa capire come funziona questa cosa, io non so come funziona questi punti di moralità. Praticamente io l'ho modificata, tu a fine partita ti rendo 10. Siccome siete dati, diciamo, in questa campagna siete dato su questo. Quello che valore che fai ti toglie la moralità, ti tendi a diventare più cattivo, se non fai niente. Che sei già cattivo. Se non vuoi solo. Sì, se fossi buono, sarebbe il contrario, cioè tutti i 10 e si aggiunge. Però comunque. Però che ho curato erano quelle del mio gruppo e io posso dire di averlo fatto semplicemente per avere la possibilità di sopravvivere io stesso. Tutta la campagna prima alla fine eravamo. Quindi non so di che mi aveva tutti i punti, però sono stesso. Ho fatto 8 almeno 5. Ma scusa, hai fatto 8 per aiutato altra gente. Ma è fatto. Vai a 27, ho sì, ma io l'ho fatto semplicemente per sopravvivere. Io mi devo fare. È fitto. È il master, ha ragione. Cioè, io sono medico, non posso fare operazione. È il motivo per cui non faccio il tuo PG, anche se volevo farlo. Non sto parlando, cioè tu, nel senso, tu comunque mi chiedi una serata che tendi al lato oscuro, cioè comunque naturalmente vai verso il lato oscuro, però ogni volta che tu fai una cosa, tipo controllare i tizi che erano davanti a voi, perché c'è una un'azione buona, o pensare e provi a agire. Cilecatamente, cioè tutte cose che non vanno con la lato oscuro, cioè non si sposano bene con perché normalmente ogni giorno normale quando voi siete lato chiaro dovrei punire quelli che invece che ne so si buttano quando trovo che è successo uccidono una persona, invece la moralità al minimo è ancora molto diversa. Quindi sono arrivato a 0 se è una parte al massimo. C'è un zitto. C'è un zitto, zitto di parte della campagna, insomma. Però già da 10 in sotto se è al massimo del costato a questa giornata. E ogni camionese che hai ritrova. Scusa, quindi noi che dobbiamo fare invece? Una volta uguale. Tiriamo 10? Posso decidere di devo tirare un 10? Te lo tiro uguale. Non ce l'ho. E quindi sto a 23. Tu hai fatto 10? Però ti tolgo 2, quindi vai a meno 8, posso aggiungere? Cioè io da 30 scrivo meno 8? Ok. Salla? 3 di 8 l'anno medio, 24, 12. 2. Conflitto che significa? Rimani a te la salla. Conflitto? Vabbè, è andata bene. Pensavo bene. Perché ce l'hai sulla scheda? Non so, poi c'era lo starting 50, beh, lo metto 30 lo starting, metto 22. Conflict te li potessi scrivere anche tu, ma in realtà li scrivo io. Se sì, è una cosa che va in conflitto con ah. Okay. Invece tutti quanti adesso dovete scegliere chi prende 5 XP più, tutti quanti prendete 10. Uno ne prende solo 5. Uno di voi ne prende 5 di più. Ne prende solo 5. Non possiamo decisione, votiamo, cioè votate voi 6. A maggioranza chi perde un 5 XP più. Perché o perché è figo o perché ha fatto una cosa, diciamo, da persona di ruolo. Che sono mai per dire, ah, io metto 5 XP più a Cristiano perché ha fatto quella cosa del, non so, perché lo smuggling delle cose. Che è smuggling? Cioè, ora si è messo a cercare l'oro per uno perché, oppure voglio dare 5 XP a Edoardo perché ha rullato quando la mette la password. O, cioè, capito, potete scegliere se dare perché ha rullato, perché ha fatto una cosa figa, perché è stato quello che ha fatto più uccisioni, quello che ha fatto più figo. Ragionavo meglio, come vi pare? No, raga, non mi sento il migliore così. Dalli Andrea che ha beccato il nome. Che ho fatto io? Questo non meglio come gli altri tre. Andrea Cristiano. No, io che c'entro? Che ha fatto cazzo. Non è stato generoso. È stato, sì, non ha preso queste cose per sé. Come sei cattivi? Qualcuno, non so, vota per qualcuno... In segreto? Voto sì, voto no. No, una cosa, ma le cose che ci hai dato ci... cioè... ci abbiamo. Quindi sia l'armatura che la pistola... però ragazzi, io comunque una granata ce l'ho, perché a me Bobo ha pentolato e non lo sa dove fa scoppiare. Direi che ce l'ho. Io con due granate... Salla, quella non era l'inventario, me l'ha da Bobo, se tu non me ne sai niente... Quindi decidiamo chi è il fortunato. Come, scusa, Luca? No, io nel senso una granata, quella che mi ha dato Boba Fett, alla fine non nessuno ha detto niente di metterla in inventario. La dovevo fare. No, ma anche la roba di Edo se la segni Edo. Io posso provare, posso fare tutto. Non ho bisogno di 5 punti. Pagate Maria Valerio, per carità, così almeno fosse sicuro la ragione. Cioè, non conoscendo il background... Valerio cosa ha fatto, scusa? Ha giocato bene con il suo personaggio, capito? Non lo so. Quindi magari con Plex curerà davvero prima o poi. Sì, ma comunque la cosa di Valerio che dice che ha avuto pochi punti per il coso è una cazzata, perché la moralità non ti dà dei bonus, indica solo il tuo grado di etica. Sì, i bonus che dà sono anche dei malus. Cioè, nel senso, è solo una misura di quanto sei... Tipo io ho messo curiosità. Ti faccio un esempio, se tu vai sotto... Bonus, malus, ossessione. Esatto. Ma e quindi... E quindi no, c'è il cugno, c'è il cugno potendo. Se cugniamo, se capita, se capita. Ma come se effetto? Ah, guarda che ce l'ho da 15. Io mi so cugnato un pochetto su Boba Fett, anche che non ci voleva dire cose. Cioè, la mia secondo me è facile. C'è il cugno, curiosità, ossessione. Cosa... diverso. Ma che cazzo è questo? Posso vedere? Oddio, tipo si sta addormentando gli altri. Mi si addormentano oppure uso uno posso un altro. Uno si fa delle cose casuali. Vabbè, ragazzi, io voto. No, facciamo, esatto, facciamo votazione. Io voto. Così la vogliamo, così. Io voto Edoardo. Se niente un punto, un voto. Tu chi vuoi? Qual è? Io voto... Chi ha ruolato bene? Boh, credo Cristiano. Credo Cristiano. Io voto Sal. Tutti diversi. Andrea. Lo spazio. Andrea, se voti Luca, Jacopo deve darci 5 ex a testa. Se voto Luca, una testa che fa Jacopo deve darci 5 ex a testa. Perché hanno tutti un siamo pari, non si può fare sta cosa. A meno che non dai il voto tuo finale. Cioè, il tuo... È vero, io avevo un voto. Allora, facciamo... Però no, aspetta, finisce. Ma in effetti adesso stare qua esiste in alcuni giochi. Sarà votato te. Da me? Per quello, se tu voti Luca, dopo abbiamo tutti un punto e Jacopo... No, dopo la decisione finale c'è la... No, vai, devi scegliere tu tra... Vai, devi scegliere onestamente Luca... sto pensando. Scegli onestamente Luca, per favore. Cioè, onestamente, ma te dopo cioè, lo dirà io. Dopo devo decidere la responsabilità sulla allora, Jacopo, no, facciamo così. Allora, aspetta, chi ha votato per 5 punti? Vota Jacopo, ne prende 250. Ok, va bene. Come? Jacopo. È così sceglie Jacopo. Che è sempre disonesto, ma almeno non sceglie lui. Vai. Non scelgo lei. Comunque mentre Andrea ci pensa ed è a disagio dirà Luca alla fine sarà meglio più avanti anche perché conosce meglio il sistema e yeah, sta cosa qua esiste solo in due sistemi, uno è Dungeon World il personaggio è facile e da Pix a tutti però okay. E l'altro è Urban Heroes in cui il master però decide. Dai, cioè, il personaggio è facile, il personaggio sì, praticamente così, davvero vuole fare carriera, cioè nel senso no, va bene. Era stato tipo sempre smerdato per la razza, cioè, facendo avanti, carriera con l'impero vuole un po' vincere questa cosa e fa tutte le cose per utilità, cioè nel senso lui questa missione ci teneva a portarla a termine per bene perché così viene promosso, cioè nel senso è facile, non c'è nessun retroscena o capito. Dicevo, cioè andando avanti non è più facile perché vi conoscete meglio fra di voi come personaggio. Vabbè, è tipo il mio è lo stesso di Luca, ma sono molto più stronzo. Però sì, forse più stronzo, anche sì, ma è anche leggermente diverse, cioè le ambizioni, le motivazioni come background. Comunque Luca è più tipo capo. Esatto, il capo. No, io diciamo mi sarei pure votato da solo, però ho sbagliato quando ho proposto la cosa della nave. Se per il resto non è giocato abbastanza bene come Andrea, ho un male solo. Mi vota per me, Renzi. Ma il tuo non è un po' ignorante, cioè nel senso il tuo PG è un po' forza brutta e basta. Cioè lo vuoi sapere come abilità o come carattere? Come carattere. Se tu mi dici sì, io non ti do il voto. Tu mi dici no, sai già cosa devi dire allora. No, cioè, come carattere ha detto sì. Ha detto no all'inizio. Lo do stalla allora. No, ma sei un cane, cazzo. No, per curiosità, se lo dava Luca. L'avevo scelto Ago. Perché io? Perché sapeva passo, cioè ero la Vabbè, però cioè ruolare in quella situazione è veramente difficile. Certo, c'è stato un po' di pressione sociale, tipo Andrea non lo sai il gioco, non lo sai. O come si vedo sano è un po' come barare, un po' come fare il power player. Non l'ho detto, ma stavo bene. Qui finisce la prima sessione, vado a spendere la registrazione. Ok, RIP GDR saluta tutti e spero che sia la prima di tante sessioni. Cosa? Come scusa?